è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Mi dicono ciccione, eppure mi rimbalza, perché quando mangio non lascio rimanenza. Forse peso troppo e so pesante dentro, però di sicuro dico sempre quel che penso. Come straguadagno, dice, hai 4 milioni che non fanno nulla. Il ministro dice voi siete l'Italia peggiore. Possiamo spiegare contesto. Anche questa azienda, spieghiamo il contesto. Anche la RAI è tenuta in piedi da precari di un ente pubblico, che lavorano da morire, che lavorano da morire, e certo, figurati, voglio dire che lavorano poco e guadagnano pochissimo, e guadagnano pochissimo. Il ministro Brunetta pensa è quella l'Italia peggiore. Ridicolo. Aldi Dolfi l'ha vinto il referendum, ha pianto di fare comizi. Robe ridicole. Il meglio sta arrivando, perché il nostro amico Giorgio Stracquadanio dà del pancione a Mario Adinolfi. Magari è più conosciuto Stracquadanio che Adinolfi. Adinolfi è un noto blogger, noto naturalmente tra i blogger, è anche un militante del Partito Democratico, e sentiamo il pancione. Onorevole, mi spiega perché se no, non glielo lei... spiego, no, perché siccome perché non c'è niente da spiegare, non c'è niente da spiegare. Non si può discutere così. Non puoi discutere. Allora, dire. Che devi dire? Posso parlare per la miseria? O altrimenti sei un prepotente, pancione. Pancione è un'offesa, è un insulto, l'ennesimo, sapete parlare solo così, l'Italia peggiore, quelli che non fanno però, un cazzo, però, pancione, vergognatevi. Non è questa la trasmissione, andate da Santoro per fare questi disagi, andate da Santoro per parlare così, l'insulto è legittimo. Non si toglie il microfono, ci dica l'insulto è legittimo. Finisca di parlare. La canzone in sottofondo è dello stesso Adinolfi, Parenzo? È lo stesso Adinolfi che canta. Non capisco perché l'amico Gerardo Greco, conduttore di Uno Mattina, dice andate da Santoro a dire cose del genere. Cioè, non mi pare una trasmissione dove si dicono, dove uno dà del pancione all'altro. Magari avrà tante altre. Forse perché sono, sono naturali per accese quelle del grande Santoro. Sono naturali per accese. Mentre lì su Rai 1, no? Ci deve essere la compostezza verbale, ma che compostezza vuoi? Ma il pancione che dici? Che dici del pancione? È un'offesa sciocca, è un'offesa sciocca detta in un momento così, siccome non sapeva chi insultare, non aveva la battuta pronta, ma mi lasci parlare, poi non si capisce la relazione che c'è tra pancione, cos'è che gli ha detto? Aggressivo pancione. Sì, prepotente, no? Un prepotente pancione. Non si capisce che relazione c'è tra essere prepotente, cioè tutti sono prepotenti. Cioè anche tu hai anche tu hai un po' di pancia, non sei un ciccione naturalmente, anche tu hai un po' di pancia, non come quella di Adinolfi, però non sei, cioè non si misura la tua prepotenza dalla... Io ho poca pancia ma sono prepotente, ad esempio, quindi non si capisce qual è, Sgarbi è prepotente ed è magro, cioè non si capisce che relazione c'è tra l'essere prepotente e l'essere pancione. Vabbè, comunque Stracquadanio è stato protagonista anche di un'altra vicenda tra ieri e oggi, dopo essere stato ospite da noi, avere spiegato per modo di dire questa vicenda dei di quelli di sinistra che stanno sul web e non fanno niente dalla mattina alla sera, dunque alimentano e contribuiscono alla vittoria della sinistra, e è stato protagonista di altre cose. Le ragazze non vogliono fare le commesse. Senti questa cosa qui. Se uno ha necessità di lavorare, accetta qualunque lavoro. E invece in Italia, se lei fa un giro per Roma, vede quanti negozi cercano commesse, ma sa qual è la risposta che ottengono da tante ragazze o da tanti ragazzi che si presentano? Sì, ma io il sabato e la domenica non voglio fermarmi qui. Guardi. E poi ancora i dipendenti pubblici alle 10 di mattina navigano. Torna su questa cosa. Mio collega mi ha detto di aver ricevuto la lamentela di due pubblici dipendenti che io avevo attaccato in un convegno, e gli ho detto come l'hai saputo? e mi hanno mandato una mail e dico strano perché nessuno ha pubblicato questa notizia, dice no ma mi hanno mandato il link al sito di Repubblica, e dico e a che ora te l'hanno mandato? Alle 10 di stamattina, la prova che avevo ragione. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi, noi normali. Perché non sei qui per cantare questa canzone con me, caro Parezzo? Ma voglio dire solo una cosa. Siamo lontani. Che vuoi dire? Di collegamento. Sì. Di collegamento. Fai la tua solita mattana. Voglio dire semplicemente che l'onorevole Saguadagno è simpatico quanto trovarsi nudi in un campo di ortiche. Immagina tu. Ma uno dei protagonisti di oggi, oltre a Straquadagno, oltre a Brunetta, che faremo risentire perché è tornato su una, sulla storia dei precari, c'è anche Saviano, da me soprannominato il più popolare dei banali. È un sindaco, il sindaco di Sulmona del PDL, si chiama Fabio Federico. State con noi perché alle 20:15 sarà protagonista di un duello all'ultimo sangue con David Parenzo. Questo signore, Fabio Federico, te lo annuncio io. Sì. Fabio Federico, sindaco di Sulmona, medico, sostiene che i gay sono una sorta di aberrazione genetica. Senti. No. Sì, senti. Mi stai caricando a mille, mi stai a caricare, amico mio. E stai a caricare a molla. Ci sono delle possibilità anche di composizioni intermedie di questi assetti genetici. Ci sono per esempio gli XXY, ci sono gli XXXY, ci sono delle aberrazioni genetiche che determinano il fatto che non si sia né perfettamente uomo né perfettamente donna. Le aberrazioni genetiche di Fabio Federico, che poi cerca di rimediare, sindaco. Sì. Che dici? Vai a casa, sindaco, dimettiti. Ormai tu sei, hai messo il disco. Ogni cosa che senti, vai a casa, vabbè. Dimettiti. Li farei curare i gay. Sentiamo un'altra mattana di Fabio Federico. Se poi dovessi vedere che le cose non vanno tanto bene, beh, le farei curare, insomma, no? Perché chi è omosessuale fa una scelta che è contraria a che la natura gli ha indicato. Se hai degli ormoni maschili, se hai un genoma di tipo maschile, se hai i cromosomi X e Y invece di avere gli XX, fai il maschietto. Se c'hai gli XX, fai la femminuccia. Ma tu ti rendi conto di queste frasi o no? No, ma è follia. Io dico al sindaco, ma glielo dirò in faccia. Parla più forte che non si sente niente, Parenzo, su, alza la... No, al sindaco dopo, ma glielo dirò in faccia che dire che i gay sono contro natura è un'aberrazione, perché la natura non può produrre nulla contro. Ma tu cerchi una spiegazione a questo, stai cercando di dare una spiegazione. Ti presento il primo ospite, Maurizio Paniz, buonasera. Eccomi qua, buonasera a tutti. Avvocato, come sta? Tutto bene, tutto a posto, tutto tranquillo. Senta, parliamo subito di una cosa. Che, Berlusconi, leggo questa mattina da alcuni giornali che avrebbe detto che mi viene voglia di mollare tutto e andare via per una serie di motivi che riguardano. Anche se lasciassi l'Italia, i miei figli continuerebbero a subire qui le stesse aggressioni, ma tra i leader europei sono il primo per popolarità. Ma lasciamo perdere il primo per popolarità tra i leader europei, che è un po' una fissazione di Berlusconi. Ma questa cosa della voglia di mollare tutto e andare via, lei ne sa qualcosa? Francamente non ne so niente, ma capisco che per qualsiasi persona ci possono essere anche dei momenti di difficoltà, di magari maggiore carica, maggiore voglia di andare da qualche altra parte, abbandonare tutto quello che si è fatto perché si è un pochino delusi, comprensibile. Ecco, ma lui secondo lei Berlusconi da questo punto di vista è un po' è tentato dall'idea di mollare tutto, no? Ma io ho sempre visto nel presidente Berlusconi una carica straordinaria, un impegno assolutamente unico, quindi non riesco a vedere in lui l'aspetto della delusione, l'aspetto del momento di demoralizzazione, per cui penso di poter vedere soltanto che ha fatto il meglio per il nostro paese di quello che potrebbe essere il peggio. Non lo vede mai demoralizzato, è sempre carico. Insomma, la demoralizzazione è una caratteristica che tutti gli uomini possono avere in qualche momento, però io ho visto in lui prevalentemente, si può dire pressoché esclusivamente, l'aspetto della carica, della forza di volontà, dell'impegno e della dedizione. Come lotta, Parenzo? Non è un avvocato, ma ci sono tre elementi che rendono cupo il presidente Berlusconi. Il primo, le foto che continuano a uscire sulla sua vita privata. Il secondo, i soldi che dovrà pagare all'ingegner Carlo De Benedetti. Ah beh, certo. E poi? Terzo, il rischio di perdere, come già sta avvenendo, una multa che Mediaset dovrà pagare nei confronti dello Stato, del fisco. Sono tre elementi di grande preoccupazione e preoccuperebbero me. Io mi preoccupo quando ho 200 euro sul conto corrente, figurati Berlusconi come si può preoccupare quando c'è queste multe da pagare. Quindi sono tre elementi veri, il governo che traballa, quarto elemento, tutto si regge su scilipoti, voglio dire, no, tu non tremeresti. Avvocato, ma è vero che lui ha paura di perdere? L'altro giorno ho letto una cosa, 2.500 miliardi di vecchie lire, poi parla sempre con questi... evocando le lire, Berlusconi, 2.500 miliardi di vecchie, che conto è questo qua? Lei ha letto pure lei questa frase, no? Sì, ho letto naturalmente, perché i giornali hanno riportato la cifra, hanno scritto anche quali sarebbero le possibili ragioni di questa preoccupazione, ma francamente mi pare che stiamo lavorando di fantasia in questo momento, quindi non mi pare che questi siano elementi di preoccupazione, come francamente non mi sembra che lo siano le foto che possono essere uscite sui giornali, perché credo che chiunque abbia diritto alla propria vita privata. E poi ne sono uscite tante, insomma, no? Ne sono uscite tante. Senta, a parte questo aspetto, ognuno ha diritto alla propria vita privata. Senta Paniz, ma esiste la P4 secondo lei? La P4 è una denominazione, mi pare, molto generalizzata di un comportamento che è tutto da provare in questo momento. Sicuramente ci possono essere delle responsabilità che vanno analizzate, e se queste responsabilità poi raggiungono o superano la soglia dell'illecito penale, francamente non glielo so dire. Alla luce degli elementi che ho visto, credo che l'indagine sia doverosa per quanto riguarda la verifica istruttoria, secondo me esagerata per quanto riguarda le misure cautelari che sono state richieste o demesse. Vabbè, lei come avvocato è sempre propenso a, come dire, a pensare che le misure cautelari siano eccessive, ma è vero che lei in Parlamento, come riportavano alcuni giornali, avrebbe detto al deputato magistrato in aspettativa Alfonso Papa, uno di quelli che farebbe parte di questa rete insieme a Bisignani eccetera, di stare tranquillo, lei è membro tra l'altro della giunta per autorizzazione a procedere, perché comunque non arriverà mai l'autorizzazione a procedere all'arresto? Questo non l'ho mai detto, perché assolutamente non ci siamo mai soffermati a parlare di questo, i fatti sono molto semplici, le carte sono arrivate. Ecco, ma fosse per lei gliela darebbe questa autorizzazione a procedere ai magistrati per l'arresto di Papa, o è propenso a dire no, comunque non gliela darà? Una mia valutazione l'ho già fatta un secondo fa, quando l'ho detto che l'inchiesta mi pare assolutamente eccessiva per quanto riguarda i provvedimenti cautelari. Dunque Papa non merita l'arresto? Io credo che l'arresto di una persona, la privazione della libertà di una persona, abbia dei presupposti nel nostro ordinamento. Tra questi presupposti, oltre al pericolo di inquinamento delle prove, c'è indubitabilmente il pericolo di fuga. Se non è evidentemente reso chiaro che esistono delle ragioni precise per le quali si possa privare una persona della libertà personale, io credo che bisogna andare molto cauti. Per questo io sono estremamente prudente quando si tratta di avallare dei provvedimenti di restrizione della libertà. Dunque, fosse per lei l'autorizzazione a procedere all'arresto nei confronti di Papa non andrebbe concessa, diciamo la verità. Secondo me no, allo stato di quello che benissimo ho detto, però le faccio presente Paniz, che in realtà tutte queste cose che lei ha detto sono i giudici a valutarle, la giunta per decisione a procedere dovrebbe valutare semplicemente se c'è o no il fumus persecutionis. Comunque c'è e secondo lei c'è, dunque ha visto nelle carte. Io ritengo che se la persona non fosse stata un parlamentare, per quella tipologia di reati non sarebbe stata mai emessa una misura cautelare di quella portata. Ce l'hanno fatto apposta, hanno chiesto l'arresto per fare clamore perché è un parlamentare? Hanno emesso la richiesta di misura cautelare, il provvedimento cautelare, soltanto perché Alfonso Papa era un parlamentare. Traffico, torniamo tra un attimo. Caro Parenzo, dopo parleremo anche di questa vicenda titolata da Libero il bunga bunga dell'Italia dei Valori. Caro Parenzo. Ce n'è per tutti, amico mio, ce n'è per tutti. come si sente male questo telefono che ti hanno dato al posto del BlackBerry. No, è una cosa agghiacciante. Ti dico solo che è una cosa agghiacciante. Vabbè. Ma c'è la crisi. E c'è la crisi. Comprate un nuovo telefono, è una cosa pazzesca. Senta, signor Paniz, quanta credibilità dà lei da 0 a 10 a un'inchiesta condotta dal signor Woodcock? Uno, beh, meglio di un altro suo collega ieri che ha detto zero, però, eh. Uno, la credibilità. Sì, dico uno per rispetto che devo alla funzione magistratuale. Perché invece Woodcock non merita rispetto come magistrato, secondo lei? Molto poco. Come no, magistrato, come magistrato. Io guardo soltanto l'esito delle inchieste che sono state sviluppate fino ad oggi. E le inchieste che sono state sviluppate fino ad oggi hanno avuto moltissimi insuccessi. E un magistrato viene misurato anche sulla credibilità del proprio lavoro, sul fatto che il proprio lavoro sia avallato dai magistrati che successivamente devono analizzare le prospettive accusatorie dei pubblici ministeri e dimostrare se hanno o non hanno fondamento. Inoltre io contesto fortemente il fatto che vi siano iniziative mediatiche, clamorosamente mediatiche, come è successo una volta in passato, perché secondo me la giustizia deve essere quanto più possibile riservata, soprattutto quando si ha a che fare con la libertà delle persone. Senta Paniz, ma se un magistrato, facciamo un esempio, no? Nelle ultime quattro inchieste, oppure molte delle sue inchieste sono finite con un flop, lei cosa farebbe? Cioè, ci vuole qualche cosa per, non so, per una pausa di un anno, una punizione di qualche tipo, una multa, un qualcosa? Cosa istituirebbe lei? C'è il Consiglio Superiore della Magistratura. No, pensiamo a qualcosa di nuovo, però. La magistratura funzioni, e secondo me se il Consiglio Superiore della Magistratura funziona e guarda con attenzione i risultati, è in grado di assumere le determinazioni conseguenti. Sì, d'accordo, però è evidente che non ci sono norme. Cioè, fosse per Maurizio Pani, no, su un magistrato che fa. Norme ce ne sono. Cioè, fosse per Maurizio Paniz, mettiamo che un magistrato fallisce le sue inchieste, grandi inchieste, e in due anni, in tre, quattro anni produce solamente assoluzioni, eccetera, eccetera. Le sue inchieste falliscono. Che dovrebbe fare? Risarcire lo Stato? Cosa bisogna? Potrebbe andare a fare qualche altra attività, per esempio essere impiegato in altri uffici dove magari non ha a che fare con la libertà delle persone, che è il bene supremo che in Italia noi. Cioè, non dovrebbe più fare pubblico ministero, una cosa, non dovrebbe più occuparsi di che cosa? Può fare tante altre inchieste, può andare a fare il giudice che si occupa di civile dove non ha a che fare con la libertà individuale, può andare a fare il magistrato di sorveglianza. Trasferirlo al civile. Dunque, fallimenti come quelli di Woodcock dovrebbero portare, per esempio, il CSM a decidere: lei non deve più fare il penale, faccia il civile, giusto? Ma guardi che anche adesso il Consiglio Superiore della Magistratura provvede talvolta con trasferimenti o con rallentamenti di carriera, in qualche rarissima occasione provvede anche a destituire dalla magistratura. Io non mi permetto fare valutazioni sull'attività personale di Tizio o di Caio, perché è estraneo dal mio modo di pensare, come voi sapete perfettamente, esprimermi a livello individuale. Faccio soltanto una valutazione: se molte inchieste, anche molto clamorose, che hanno portato all'arresto delle persone, non sono poi state avallate dai giudici che hanno verificato l'impianto accusatorio, bisogna fare qualcosa. Vuol dire che questo pubblico ministero va valutato sulla sua idoneità a continuare a fare il pubblico ministero. Poi, se si ritiene che sia un pubblico ministero ulteriormente affidabile, prosegua pure. Se non lo si ritiene, si prendono dei provvedimenti. Senta Paniz, abbiamo un attimo solo, che abbiamo ancora un minuto e mezzo. Volevo chiedere, lei è grandissimo tifoso juventino, presidente di Juventus Club Montecitorio, grande sostenitore sempre della figura anche sportiva di Luciano Moggi, è stato radiato. Si può fare un intervento da parte sua? Ha in mente di fare un intervento alla Camera o un qualcosa? Vuole per caso difendere Moggi in qualche sede? Che succede? Alla Camera non mi pare che sia il caso di farlo in questo momento, perché in questo momento si devono percorrere i vari gradini della giustizia sportiva prima e semmai qualcos'altro. Ecco, ma la giustizia sportiva non è stalinista da questo punto di vista, cinque anni dopo... Ho già espresso oggi sulle colonne di Tutto Sport, che mi ha intervistato ieri, il mio punto di vista. Secondo me è aberrante una sentenza che interviene con un provvedimento accessorio cinque anni dopo la sentenza principale, perché tra i doveri di una giustizia c'è anche quello della rapidità. E dunque i tribunali sportivi come li giudica lei? In questo caso il Tribunale Sportivo secondo me ha sbagliato e penso che abbia sbagliato a non tener conto della normativa europea che a tutti gli ordinamenti giudiziari, non solo a quelli della giurisdizione ordinaria ma anche a quelli delle giurisdizioni collaterali, impone l'obbligo della rapidità del giudizio. Ecco, ma da questo punto di vista, da questo punto di vista, anche per il passato, eccetera, non sono un po' come i tribunali del popolo, i tribunali sportivi, cioè molto rapidi, in cui uno non si può difendere bene perché devi. Insomma, guardi, il grande merito della giustizia sportiva è la velocità nell'assumere decisioni. Nel caso in cui ci sia un giudizio veloce, qualche volta si perdona anche la sommarietà della valutazione. Che fare per Moggi adesso, Paniz? Moggi farà il secondo grado di giudizio sportivo. Lo aiuti lei, lo aiuti lei. Bertoni. No, non ha bisogno del vestito perché si sa difendere benissimo. Giornale radio, la devo interrompere. Giornale radio. Siamo qui 800 24 00 24. Vogliamo sentire subito un ascoltatore, caro Parenzo. Il signor Vito da Milano, buonasera, si sente ancora peggio il telefono. Vito da Milano. Buonasera, Cruciani. Dica. Senta, allora io ho chiamato ieri sera in realtà in merito alla sua dichiarazione per la quale secondo lei non esistono precari. No, non esiste il precariato, ho detto. Non esiste il precariato. Sì, non esistono i precari, esistono quelli che lavorano e quelli che non lavorano. Ecco, beh, oddio, sì. Io l'ho presa più legata ai precari, alla figura dei precari. Siccome si parlava dell'esperienza del suo papà. Che... Sì, sì, ma lasciamo perdere questo. Vito, che cosa vuole dire? Quello che volevo dire è che secondo me, adesso non, io mi riferivo ai precari, esistono e come. Per cui non è solamente una questione di... Sentiamo poco, lanciamo il TG3. Questa sera non funziona nessuna linea telefonica. TG3. Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Maroni, la Lega è protagonista, Pontida influirà sulla politica. Berlusconi telefona ad un convegno in Calabria ma la sala è vuota. L'opposizione per il Carroccio è l'ultima opposizione per mollare Berlusconi. A Genova la conferenza del PD, il lavoro torni al primo posto. Napolitano festeggia i 150 anni dell'unità a Verona, non bisogna avere paura di ritrovarsi uniti sui grandi principi e su obiettivi comuni. Inchiesta P4, allarme dell'Associazione Nazionale Magistrati, fatto inquietante, aperta un'indagine interna. Vertice Merkel-Sarkozy a Berlino, via libera a Mario Draghi, ma no a due italiani nella BCE, Binismaghi si dimetta. Lanciata dal web la sfida delle donne in Arabia Saudita al volante per le strade di Riyadh contro il divieto di guidare. A Bologna tra poco serata con Santoro per i 110 anni della Fiomme per parlare di diritti e lavoro. In piazza, anticipa il giornalista, ci saranno gli indignati d'Italia. Voci dalla Lega in attesa di Pontida. Aspetta. Che succede? Aspetta che c'è uno scoop. Che succede? Ho uno scoop davanti a me. Chi è? Ho davanti a me un'istituzione della televisione. Chi è? E adesso sta parlando. Ma chi è? Signor Baudo. Signor Baudo? Buongiorno, buonasera. Parenzo, Radio 24, la Zanzara. C'era Cruciani che voleva salutarla. Ti passo il signor Pippo Baudo, è un'esclusiva clamorosa, Cruciani. Pronto? Caro Pippo, buonasera, eccolo, dov'è? Eccolo. Pronto? Buonasera, come stai? Come va? Bene. Grandi rivolgimenti nella televisione italiana, vedi, Santoro, che dici? Che devo dire? Siamo alla finestra a vedere. Ma Santoro che va via dalla Rai, tu come la prendi? Tu che sei una figura storica, insomma, della televisione italiana, della Rai in particolare, come la vedi? Personalmente mi è dispiaciuto molto. Ti è dispiaciuto molto? Sì, mi dispiace che con la forza della Rai che va via. Ma può nascere un terzo polo televisivo forte, la 7, può rafforzarsi, è positivo? Però, sta diventando. Ma è positivo tutto questo? Certo. Poi ci sono meglio. Ecco, ma se fossi stato un dirigente della Rai avresti fatto di tutto per trattenerlo, Santoro? Ma penso che un accordo si poteva trovare, insomma. Bisogna sempre tentare di non rompere, soprattutto con personaggi che hanno audience, che hanno presenza, che hanno pubblico, che sono indipendenti. Certo, dunque è un danno per la Rai. Sempre, è un danno. Chi va via e lascia l'azienda è sempre un... Vabbè, dipende chi naturalmente poi, cioè, no, non tutti, è evidente. Parliamo di uno bravo. No, certo, ma c'è uno che può sostituirlo, secondo te, la Rai, in grado di fare quegli ascolti potenzialmente? Chi può essere? Secondo me no, difficile, molto difficile, lo stato attuale è difficile. Ma di chi è stata colpa? Di Berlusconi, degli amministratori attuali? Il processo non lo voglio fare, non faccio processo. Vabbè, ma ti sarei fatto una tua idea su No, vabbè, ma c'è troppe pressioni? Anche lui a un certo punto voleva andare via, penso. Però troppe pressioni ci sono state, Pippo, no? Ma penso di sì. Anche quelle avranno contato, immagino. Ah, certo, sì, conta tutto. Bene, grazie, buona serata, un saluto, un abbraccio, ciao. Pippo Baudo dice la sua sul caso Santoro, raccolto al volo da Parenzo. Parenzo, per questa cosa... Credo di essermi guadagnato, voglio dirlo agli amici della radio. Esatto. Un rinnovo ventennale. Non esageriamo, comunque diciamo che ti perdono questo collegamento di questa sera, che è una roba penosa dal punto di vista tecnico. Ma non hai idea di come si sono arrabbiati quelli intorno, i manager intorno. Lo so, perché l'abbiamo pizzicato al volo, amico mio. Sono scappato, io mi so, ma lei, ma cos'è? È in diretta? Ma può essere, adesso sì, certo. Ma lei come? Ma non ha chiesto il particolare? Ho detto Radio 24, l'istituzione. Sto scappando via, amico mio, mi stanno a inseguire, amico mio. Scappa lontano. Passo e chiudo, ci riaggiorniamo. Baudo, un danno per la Rai l'uscita di Santoro. Le pressioni di Berlusconi hanno contato. Questa è la realtà, amici miei, questa è la realtà. Stanno a seguire, amico mio. I titoli del TG3. Sono già andati i TG3. Ma veramente sono andati? Sono completamente rincoglionito. Sono andati i titoli del TG3. Tu te ne eri accorto che erano andati i titoli del TG3? Ah, è vero, questa è la Lega, sì. Scusate, voci di militanti padani. E adesso bisogna picchiare i pugni sul tavolo, quei quattro Berlusconi lì. Tremonti, Berlusconi non fanno le riforme che devono fare. La Russa scappa, quell'altra, la Moratti, è una gallina bollita e noi siamo qui con questi qua. Via, fuori i coglioni, io lo griderò a Pontida, fuori i coglioni che è ora di uscire dalle trincee. Speriamo che adesso, soprattutto domenica, Bossi dica cosa vuole cambiare, perché a oggi non siamo assolutamente soddisfatti dei 3 anni che abbiamo trascorso al governo. Quest'ultimo periodo sono rimasto un po' deluso dal partito, che ci ha un po' abbandonato, si è un po' romanizzato ultimamente e quindi un po' per protesta non ci andrò. E va bene, questo succede. Salvini dice: non siamo innamorati di Berlusconi, senza di lui viviamo lo stesso. L'aveva già detto qui alla Zanzara, ma lo ripete in questi giorni. Non abbiamo l'incubo di Berlusconi, non abbiamo l'innamoramento folle e cieco, a prescindere da tutto e da tutti, di Berlusconi, è un rapporto di interesse. C'è gente che senza Berlusconi dovrebbe evidentemente cambiare il mestiere, sia in politica che nel giornalismo che nella satira, perché togli Berlusconi dalla scena politica italiana, c'è metà della gente che parla in televisione che non ha più l'argomento di cui parlare. Non penso sia il caso della Lega. Va bene, qualche ascoltatore, andiamo a Francesco, provincia di Frosinone, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Niente, io già ho parlato ieri sera, poi... Dica, tranquillamente, dica. No, io dicevo che questo governo ha fallito i suoi principali obiettivi, perché li vorrebbe fare adesso le riforme, ha un po' campicchiato, insomma... Ma dall'altra parte non vedo nessuno capace di governare, perché non fanno nient'altro che accusare Berlusconi di là, Berlusconi di qua, perciò non li vedo, loro non li vedo propositi a dire guarda, noi faremmo così, perciò è tutta una... è tutta una panzata alla fine. Sa che non ho capito nulla di quello che lei vuole dire, Francesco? Perché? Non ho capito niente. Cosa vuole dire? A parte il fatto che Berlusconi ha rotto le scatole, si deve dimettere, eccetera, eccetera. No, io le dicevo che dall'altra parte vedo soltanto gente che accusa Berlusconi. Berlusconi va a letto con questa, Berlusconi va a letto con quell'altra, le cose, la sua viene praticamente la sua lotta con De Benedetti viene portata avanti da Repubblica e va bene, allora Francesco, dunque? E allora da così non andiamo da nessuna parte, secondo va me. Bene, non andiamo da nessuna parte, vedremo se è come dice lei. Da qualche parte andremo comunque. Franco dalla provincia di Varese, buonasera. Pronto? Sì, Franco, dica. Buonasera. Ah, volevo dirci, dottor Cruciani. Sì. Ecco, bisogna che facciamo una colletta e comprare le pile al telefono del suo socio lì. Ma non è le pile, il problema è proprio... Distanza, ecco, comunque, no, allora, non è la distanza, è il tipo di telefono che ha in questi giorni. Il telefono che c'ha, ecco. Sì. Allora, io ho detto alla sua signorina... Parenzo, abbiamo iniziato male stasera, qua. Pronto? Facciamo un'interrogazione parlamentare. Franco, allora, dica. Pronto? Sì, Franco, dicevo, allora, abbiamo iniziato male con gli ascoltatori. Ha capito cosa, perché ho telefonato? Ma io... non ho capito, ma se non me lo dice, Franco, scusi. Ah, non gliel'hanno detto, perché mi hanno chiesto di dire... No, no, ogni tanto me lo dicono, ogni tanto non me lo dicono. Ah, ok. Allora, io gli ho detto che ho incontrato Berlusconi, gli ho stretto la mano, io sì. Ho sempre avuto l'ulcera, ho 62 anni, sì. Ho avuto l'ulcera, da quel momento mi è passato il brucione. Perché io ho sempre avuto fiducia in Berlusconi. Beh, questo qua è strepitoso, Franco, capito? Capito, Parenzo, ho stretto... Io mi dice che sono matto, ma non è mica vero. Io la gran fiducia, io lo so che lui non è stufante, che quando è nato ha preso i soldi dalla banca di suo padre, che era la banca Rasini della mafia, certo. Che poi quando si è possessato della Mondadori ha pagato il giudice con suo socio avvocato. Cose le so che ha corrotto. Ma stasera c'è una linea speciale, Parenzo? Stasera c'è una linea speciale dedicata. C'è una linea speciale dedicata alla... qui all'ex CIM. Vabbè, Franco, non ho capito bene. Franco, dove si trova comunque con esattezza? Ma lei mi sta sentendo o no? Sì, assolutamente sì. Ma lei capisce che io ho una fiducia enorme, anche se so che è nato con i soldi della mafia, come dice ho capito benissimo. Vogliamo ho detto che lui è mafioso di Arcore, no? Sì, ho capito, caro Franco. Ma lui mi ha toccato e mi ha fatto godere. Ha toccato la sua mano. Ma se tocca uno, fa passare l'ulcera. Certo, per carità. Tranquillo, stia calmo. Dove si trova? Io mi trovo a Galarate. Se vuoi mandarmi l'ambulanza, però sono a Milano da un amico. È già partita? Sì, è già partita. Sereno. Ecco, Parenzo, posso dirgli una cosa, Parenzo? Dica una cosa, Parenzo. Se non continua a fare così, pagliaccio, il giornalista non lo farà più dopo, capito? Vabbè. Vabbè, prendere i soldi subito, meglio pochi e maledetti subito, però dopo uno perde anche la faccia, gente. Certo. E alla lunga capiamo chi siete, no? Io non sono stato guarito. Vuoi per guarire da sta malattia? Ma adesso Franco lo statista, certo. Sarà un casino, gente, Se parli Radio 24, quello sì. Sì, certo. Radio 24 è una grande radio. Ma anche la vostra trasmissione è divertente, Però pendete troppo, gente, pendete troppo, è troppo trasparente, non che vi paghi, perché quello no. Ma insomma, che si sia comprati i giudici è un dato storico. E che sia sotto processo per chi ha frodato il fisco è un dato storico, o no? A me delle puttane non mi interessa un cazzo, scusi, capito? Calma. Signor Franco, scusi, mi ricordi un po' questa cosa qua della stretta di mano? Perché dunque Berlusconi le ha stretto la mano, lei è guarito dall'ulcera, giusto? Questo sì. Però, come dice Cassio Sgalbari, posso dire io o no? Sì, no, per carità. Posso mandare un attimo la borsa, che è una cosa... così che appartiene alla storia di Radio 24 dopo questo suo intervento, poi segnali alle signorine del centralino esattamente la location, perché altrimenti non riescono a beccarla. Ci vuole una cura abbastanza dura, io direi. A tra poco. Senza pretesa di voler strafare, io dormo al giorno 14 ore, anche per questo nel mio rione godo la fama di fannullone, ma non allora abbiamo ottenuto queste cose che un po' le dispiace. No, però. Assolutamente no. Un po' ha sbloccato. No, assolutamente no. Che questa storia di Katia e Fabrizia, che lei è un po' ingiuriato, è una bella storia. No, ragazze che hanno studiato no. e che lavorano. Ma no, assolutamente no. No, assolutamente no. Lei se le fa due lauree. Si dà le risposte. No, no, ma ce ne sono tanti in Italia che hanno due lauree. Lei no, io no. Che ridono fissati. Telese versus Brunetta. Mi dispiace, dice Brunetta, assolutamente no. La CGL dice balle, sentite Brunetta. Lei legge troppo i fogli della CGL. Sì, lei e guarda, non bisogna leggere quelle CGL. No, racconta balle. Tutte balle. Sì, propaganda bolscevica. Assolutamente sì. Ma tutta la CGL. Certo. Risparmio mi diedi da fare, ma il sol risultato dell'esperimento. Le dico che lei è stato esageratamente scostumato con quei ragazzi che non l'avevano contestata. Lei è esageratamente fazioso. Lei è fazioso. Penso che potrebbe ricevere le sentite della loro storia e capire che si sono comportati in maniera molto cortese. Basta che me lo chiedono, non certamente. Che lei abbia questo caratteraccio, che la sua croce nelle loro interviste. Abbia ragione Merlo, sulla stampa ha detto uno da Brunetta non si aspettava una cosa così. Merlo non è sulla stampa. No, sulla stampa, su Repubblica, cioè sulla stampa. Perché si sbaglia? No, no, commento sulla stampa cartacea. Repubblica, vuole che non sappia dove lavora Merlo. La luna, tornasti a cantar storie lungo strade di notte, sfidando il buon umore delle tue scarpe rotte. Chieda scusa, una di quelle, guardi in camera e dica Fabrizia, Katia, vi chiedo profondamente allora, scusa. Una signora, sono una signora di sono anch'io una persona per ma bene. Ma perché dice delle stupidaggini? Perché vuol farmi dire delle stupidaggini retoriche? Scusa, il fallimento. Ma perché? Chieda scusa lei a se stesso. Al fannullone sa battere. Adesso, al di là delle scuse o no, c'è questa fissazione pure di Telese che se uno ha due lauree e magari un master, è obbligatorio che debba trovare lavoro. Che non sta scritto da nessuna parte, naturalmente. Perché poi se si va a vedere, o comunque un lavoro a tempo indeterminato, che non sta scritto da nessuna parte. Primo, perché non è nella maniera più assoluta un diritto se uno ha una laurea e nemmeno un master. Secondo, bisogna vedere che laurea e che master. Nel caso di specie, la signorina che è figlia dell'ex deputato di Fondazione Comunista Russo Spena, lo dico semplicemente per capirci, no? Perché ci sia qualche legame. È laureata, credo, se non sbagli, in orientalistica, no? In orientalistica. Ora, siamo sinceri, se uno si iscrive, e ha tutto il diritto di farlo, alla facoltà di orientalistica, che poi successivamente possa trovare qualche difficoltà nel mondo del lavoro, mi pare una cosa abbastanza scontata, insomma. Diciamo la verità, insomma, questa è la realtà. E comunque, perché? Come perché? Non è che c'è ma un che diritto. Ragionamento è? Come che ragionamento? È un ragionamento normale. È come dire, è un percorso. È un percorso che poi, ti dà il diritto a ottenere un posto di lavoro? Ma scusami, Marchionne mi sembra sia laureato in filosofia, credo, neanche in ingegneria gestionale. Appunto. E quindi uno diceva, caro Marchionne, il suo papà e la sua mamma, gli avrebbe detto, caro Sergino, no? Perché ma cosa c'entra? Fai degli esempi che non c'entrano assolutamente nulla. Marchionne è laureato in filosofia, poi ha fatto un altro percorso, adesso io non lo so in cosa sia laureato, ha fatto un altro percorso. In filosofia, ma cosa c'entra? Hai detto, non è un se il suo babbo e la sua mamma gli avessero detto ma Sergio, ma togliti quei maglioncini, lui aveva sempre i maglioncini a collo alto anche da bambino, sempre, anche da bambino, diceva no, ma mettiti una maglietta, maniche corte, no, voglio il maglioncino, sempre, fin da bambino aveva il maglioncino. Vabbè. E gli ha detto, ma scusa, studia filosofia, perché studi filosofia? Studia ingegneria, non farei mai nulla nella vita. Guarda cosa ha fatto con la vabbè, ma non c'entra nulla, non è che diventare, si diventa dire Marchionne attraverso la laurea in filosofia, non dire stupidaggini. No, perché la laurea è non è ma chi ha detto? Ho capito, però spesso si dice la retorica di cui parla Brunetta a Telese è questa: ha due lauree, un master, poi altro, non trova lavoro a tempo indeterminato. Cosa vuol dire? Bisogna dire che laurea e che master. Paese, ma dica, il problema è che nel nostro paese ormai l'ascensore sociale non funziona più attraverso vero, la laurea. Che una volta certo, perché la laurea non vale nulla in Italia. Di emancipazione e di liberazione. Oggi attraverso quello non fai nulla. Oggi c'è di avere esatto, la raccomandazione. Bravo. Ma non la c'entra la raccomandazione, non c'entra niente la raccomandazione. Dipende che laurea e che specializzazione ha. Su, non diciamo stronzate, diciamo la verità, è questa la cosa. Forza, non è l'angolo del populismo, è un altro, non sigla, è questo qua l'angolo sigla, del populismo. No, l'angolo del populismo sigla, è un altro. L'angolo del populismo è un altro, l'angolo della demagogia sui precari è un altro. Io dico è la un paese questo dove tu non hai più strumenti per salire per fare quello che in America è la una banalità totale. Questa qua è una banalità assoluta. No, chiamo, no, no. Vittorio da Genova. Chiamo invece Vittorio da Genova. Il signor Vittorio da Genova. Un ascoltatore. Pronto. No, volevo dire, a proposito di questa cosa qua delle lauree, già che ci siamo, devo dire un'altra cosa, ma dico anche questa. Spesso quelli che sono laureati non sanno proprio cosa fare. Cioè, il giorno che sono laureati hanno paura a entrare nel mondo del lavoro, cercano un'altra laurea da fare. E quella gente lì non è da assumere. Quella gente lì, anzi, non è capace a lavorare perché ha paura di andare a lavorare. Ecco, comunque, io volevo dire su Santoro che secondo me al giovedì sera 15 milioni di euro di pubblicità li incassa chiunque, anche Santoro. Cioè, secondo me è una giornata che il giovedì c'è tanta gente in casa la sera. Ma adesso lei sta dicendo delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Se ci fosse anche Milly Carlucci li incasserebbe anche lei. No, ma lei è fuori di testa totalmente, mi scusi se non è un'offesa, è per dire che sta facendo un ragionamento assolutamente ridicolo. Cioè, chiunque va in onda il giovedì sera perché la gente in casa incassa gli stessi soldi di pubblicità, eccetera. E secondo lei quanto incasserebbe di meno un altro? Non lo so, senta, non funziona. Non funziona in questo modo. Non funziona, dico solo che non funziona in questo modo. Edoardo da Roma, buonasera. Non lo dico buonasera. Io, lo dicono le statistiche, i dati in questo caso. Cioè, buonasera. Carta canta, dica. Sì. Aspetti, allora, però, aspetti, parlare... che c'è un collegamento. Con gli Stati Uniti su questa questione dei precari, perché mi sono voluto informare meglio. E allora il signor nostro ospite abituale ormai, Edward Luttwak, buonasera. Good night from Washington DC. Lei non è nella sua casa, è a Washington? A Washington, incontro importante con Casa Bianca per capire strategie nel mondo civile occidentale per combattere il terrorismo internazionale di Al-Qaeda. Sì. E noi pensa che è grave problematica. Sì, questo lo sapevamo, ma questa storia dei precari di Brunetta... precari. Precari non è un problema italiano, precari. In United States of America, you remember Lehman Brothers? Sì. Ok, operaio, lavoratore, quello che perde lavoro, finito, crollata l'azienda, non ci sono soldi, lo Stato non deve dare niente, il lavoratore lo sa, non si incazza, prende scatolone e va fuori dalle balle. Questo è risolto il problema. Nessuno ha visto mai manifestazioni in Stati Uniti con vesti, con scatoloni, lavoro, work, urlare cose scomposte come agnoletto, la bandiera della pace, CGL, Cheese Wheel, tutte avete più sigle di sindacati che lavoratori. Questa è quella problematica. Ho capito. E dunque lei cosa farebbe? Quindi noi pensa che a Roma c'è una sede di questa CGL, non so come si chiama, c'è pure una donna che guida, io non la Camusso, non sono, la signora Camusso. Non so, io seguo solo grandi questioni Al-Qaeda internazionale. Credo che CGL è pericoloso quasi quanto Al-Qaeda. For democracy. Ho capito. Soltanto la piena occupazione da paese comunista. Noi abbiamo combattuto il comunismo reale con le bombe. Credo che il suggerimento da dare è quello di bombardare solo la sede della CGL, ma solamente quella con bomba intelligente. Ah, ho capito. Bene. Noi pensa che è grave problematica e questo potrebbe risolvere il problema. Ho capito. Bene, grazie per i suggerimenti a Edward Luttwak. Intanto Edoardo da Roma. Sì, sono sopravvissuto all'imitazione di Parenzo, di Luttwak, non del tutto incolume, ma insomma... Io volevo parlare del distacco che si sembra proprio manifestare in questi giorni, ma cioè si manifesta, ma probabilmente c'è da tempo, dei politici, di molti politici, dalla realtà. E mi ha colpito un po' di giorni fa il ministro Brunetta, che proprio in maniera molto, come dire, aperta, a un certo punto ha detto: ma il governo ha cercato anche di fare, è accusato di non fare le liberalizzazioni quando ne abbiamo fatta una in qualche maniera di privatizzazione, quella dell'acqua. E gli italiani ce l'hanno bocciata sul referendum, e poi come con un'aria proprio sconsolata, che insomma veniva quasi tenerezza a guardarlo, diceva: non capisco proprio cosa vogliono questi italiani. Che a me mi si è gelato il sangue, perché pensare a un ministro, insomma, che lì fa il ministro da qualche anno, che dice: non capisco proprio cosa vogliono gli italiani. Allora dico: vabbè, allora non so chi dovrebbe cercare di capirlo. Beh, non si è capito cosa vogliono col referendum sull'acqua, per esempio, perché non... Diciamo, è difficile capire da un referendum che cosa si voglia, perché poi si vota sulla, come dire, per i motivi più disparati, insomma. Certamente poi è stata abolita quella norma che prevede certe cose, però tornano per esempio i politici locali nelle cosiddette municipalizzate, questo forse i signori referendari non lo sapevano, tornano e alla grande la politica. Guardi, nelle municipalizzate. Io anch'io ho sempre pensato che effettivamente l'Italia ha bisogno di meno pubblico e più privato, un pubblico un po' più regolatore. Allora? Ecco. Però poi io lavoro nel pubblico, lavoro proprio sugli enti locali, da parte privata sugli enti locali, e mi rendo conto che poi alla fine, guardi, tutta questa differenza tra il pubblico e il privato in Italia, se parliamo del privato che poi serve il pubblico per i pubblici servizi, non c'è, perché stiamo sempre parlando, se è il pubblico sono i comuni, ma se è il privato sono società che in qualche maniera vengono su quei soldi degli enti, insomma, in qualche maniera, perché sono sempre società che fanno i loro affari grazie a alle conoscenze politiche, ai canali giusti, eccetera. Ma non è... Se non altro nel pubblico c'è la Corte dei Conti che è un minimo, guarda. Questo era il primo scollegamento. L'altro scollegamento, insomma, continuo a sentire il Presidente del Consiglio che dice se i giovani vogliono trovare lavoro, e questa volta l'ha pensata sui maschietti, evidentemente, perché le femmine già le ha sistemate un po' di anni fa dicendo possono sposare uno dei miei figli, e dice possono ammettersi un'impresa. Ma per carità, è una cosa bellissima, sarebbe veramente bella. Io ho un amico inglese che ha messo su una filiale della sua società, una società internazionale che fa cose interessanti di elettronica in Italia, è diventato matto a cercare di... Dice, ma voi siete pazzi, dice, ma come fate ad averci aziende in Italia? Come fa? Perché poi dicono sempre che le norme sull'apertura di un'impresa nuova sono state migliorate. Qualche semplificazione, non quelle che ci vorrebbero. È una roba da pazzi. Bene, grazie. 800 24 00 24. Parenzo? Sì. Dove sei? Non si sente nulla con questo cellulare. Nulla. Allora, Fabio, sì, meglio. Fabio Federico, il sindaco di Sulmona del PDL, buonasera. Buonasera. Federico, ma che storia è questa? Avrei preferito non sentire. Ride. È la solita storia. Lei ha fatto un video stavolta, non è che qualcuno, sono di... No, alta attenzione. Che hanno succede? Mandato un video che durava un quarto d'ora, fatto 5 anni fa, sì? E lo hanno trasformato in un video di 30 secondi. Vabbè, adesso non cominciamo con la solita roba che hanno alterato il video, comunque hanno preso solamente una parte. Lo hanno esattamente manipolato e cambiato radicalmente, non lo dico io, lo ha detto il magistrato, tant'è vero che l'ha tolto. Cioè, scusi un attimo, allora, lei è vero che definisce i gay un'aberrazione genetica? No, non è vero. E che cosa, quando parla di aberrazione genetica, di cosa parla? Le spiego subito. Io sono un medico innanzitutto, perciò dico le cose che ho studiato. Non ho nulla contro i gay, assolutamente. Vabbè, ho allora? Amici gay, persone amiche, sensibili, simpatiche, intelligentissime. Quindi non sono omofobo. Sindaco, però quando scusi. Ho fatto quell'affermazione spiegavo un altro concetto, e spiegavo esattamente il seguente concetto. Che concetto? Visti che quando ci sono dei problemi di tipo... di questo tipo, di tipo sessuale, no, non problemi, delle scelte di tipo sessuale. Problemi. No, lei ha parlato dei problemi, però. Le spego. Quando ci sono delle scelte da spiegare da quelle che ci indica il nostro DNA, cioè il nostro corredo cromosomico, ci sono due tipi di diversa motivazione. Una è culturale. Culturale significa una scelta, un gusto, una scelta di vita delle persone. E questi sono la stragrande maggioranza degli omosessuali. Ci sono però delle altre possibilità che rientrano nel campo prettamente medico, che si chiamano aberrazioni cromosomiche, cioè invece di avere un cromosoma XY, alcune persone hanno il cromosoma XXY, hanno 3 cromosomi sessuali, e si chiamano aberrazioni cromosomiche, sono delle malattie riportate sui libri di genetica. Ho capito, ma se lei parla di una cosa... Se lei estrapola questa frase dal discorso e la mette... come unica frase di mio rapporto con il mondo omosessuale, è ovvio che viene fuori un concetto che io non ho mai pensato, cioè che tutti gli omosessuali siano degli aberranti sessuali, che aberranti genetici. E così non è assolutamente. Perché invece sono solo una parte, sono frutto di aberrazione genetica? Esistono delle patologie anche ormonali, per esempio dei tumori delle ghiandole surrenali, che negli uomini producono una eccessiva quantità di estrogeni, ad esempio. Esistono delle persone, dei pazienti a questo punto, che non hanno un corredo cromosomico XX femmina o XY maschio. Follia. Ma hanno un corredo cromosomico diverso. No, ma questo qua può essere anche vero. Il problema è mettere tutte queste considerazioni all'interno di un discorso che riguarda gli omosessuali, cioè la, allora, i gay. Allora, il discorso, mettere questa considerazione all'interno del discorso sugli omosessuali, è stata in un quarto d'ora, quindi in un discorso abbastanza lungo, fatto per spiegare che alcune persone sono, diciamo, non so, pur essendo avendo un corredo cromosomico maschile, non si comportano da uomini perché hanno dei problemi di tipo ormonale e sono anche delle malattie. Delle persone che invece non si sa se sono proprio uomini o donne, perché è la natura che non ha deciso se sono uomini o donne, le ho detto, si chiamano aberrazioni cromosomiche e sono su tutti i tipi di genetica. Poi ci sono delle persone che invece hanno fatto una scelta di vita diversa e sono altrettanto rispettabili quanto siano rispettabili gli eterosessuali. Ma è una malattia secondo lei l'omosessualità? No. Dica la verità, ma allora, l'omosessualità legata ad un'alterazione della produzione di estrogeni dovuta a un tumore del surrene è una malattia. Vabbè, ho capito questo. L'omosessualità come scelta, lo dico pubblicamente, ufficialmente, e per l'ultima volta, spero, perché mi stanno levando la pelle su questa storia, non è una malattia, è una scelta di vita che io... che io accetto come gli altri accettano. Scusa, lei ha parlato oggi di eterosessuale. Lei oggi ha parlato anche di malattia da curare. No, non ne ho parlato assolutamente di malattia da curare. No. Io ho detto che nel caso in cui ci siano quelle che le ho detto prima, delle patologie di questo tipo, sono delle malattie da curare. Nel caso in cui invece fossero delle scelte di vita, ovviamente non rientrano nel fatto del quadro della malattia da curare. Ma se lei prende la mia intervista di adesso e se la spezzetta come lei vuole, e sono certo che lei non lo farà, ma lei la spezzettasse come lei vuole, lei può farmi benissimo dire che io ho detto che gli omosessuali sono dei malati da curare. E questo è esattamente quanto è successo, e non lo dico io, lo ha detto il magistrato, esattamente quanto è successo con questo filmato, il quale, come ha detto, durava un quarto d'ora ed è stato ridotto a 30 secondi. Però scusi un attimo. Problema diverso, sì. Che vuoi dire, Parenzo? Completamente diverso, perché già il fatto stesso di inserire in un discorso sull'omosessualità il tema di alcune patologie che in medicina, come ha ricordato il sindaco medico, indubbiamente sono riconosciute, ma attribuire in un discorso inserire in un discorso sull'omosessualità tutta questa pippa sulle malattie, gli ormoni, i testosteroni è fuorviante, è culturalmente e politicamente fuorviante. Non so con chi sto parlando. Con Davide Parenzo il fatto di fuorviare quello che uno vuole dire è soltanto a carico di chi ascolta. Io stavo soltanto spiegando a chi mi ascoltava sotto delle precise domande che mi facevano, stavo soltanto spiegando che bisogna tenere ben distinte le due cose, cioè quella che è una patologia da quella che è una... Però lei, di fronte a queste alle domande che le facevano, sosteneva che la questione dell'omosessualità può spesso essere ricondotta a un problema di tipo ormonale cromosomico. Dunque lei non è che dice, cioè nella maggior parte dei casi gli omosessuali hanno un problema cromosomico. No, spesso ce l'ha messo lei, io non ho mai detto spesso. Io non ho mai detto spesso, ho detto in alcuni casi può essere ricondotta, in altri casi è semplicemente una scelta, è un tipo di cultura diversa, un tipo di scelta. Cioè, secondo lei una parte delle persone che sono omosessuali hanno dei problemi, sono dei malati dunque, non tutti, ma alcuni sono... Ci possono essere alcune persone che hanno una, e io ne conosco perché ne ho tre pazienti, tra l'altro, che hanno un corredo cromosomico che non è perfetto, non si sa se sono uomini o donne, addirittura certi hanno dei caratteri primari sessuali che sono stati operati diverse volte perché madre natura non aveva scelto in quale via indirizzare il sesso di quella persona, nel senso che c'erano dei problemi di tipo cromosomico. Ma lei... Ci sono poi tutto un altro tipo di problemi ormonali, per cui sono ovviamente delle persone che hanno dei problemi di tipo ormonale, e qui anche lì il sesso ne è condizionato e con esso anche le abitudini sessuali. E queste sono malattie, punto, basta. Il fatto di avere delle pulsioni sessuali nei confronti del propio sesso può in alcuni casi derivare da qualche patologia di questo, no, però è riconosciuto scientificamente. La scelta culturale, la scelta lei non la discute, vabbè, ma ci mancherebbe altro. Assolutamente. Scusi, assolutamente. Però lei dice: è la gravità di quello che mi è stato fatto. Lei dice: è stato fatto una cosa, lei ha due figlie, ha due figlie femmine. Io ho detto che preferirei che le mie figlie femmine fossero eterosessuali perché vorrei, e l'ho detto. Però questo confermo. È un po' sospetto, dopo tutto quello che è successo, lei poi dice: ho due figlie. Ma perché, scusi, lei c'ha figli? Potrebbe essere indifferente. Io sono indifferente a questa cosa, francamente. Io invece non sono indifferente. Io vorrei che i miei figli femmine sposassero un uomo, degli uomini, e con gli uomini facessero dei figli. E se fossero naturale, invece... Così come dice madre natura. Mi piacerebbe che fosse così. Avrò diritto di esprimere un mio desiderio. L'errore. Certo, ecco, certo l'errore. Che lei ha diritto di esprimere. Allora lei esprime i suoi, io esprimo i miei. Certo, ma non c'è dubbio. Però voglio dire, se scoprisse le sue figlie fossero... Ecco, lesbiche? Sì, l'ho beccata sul fatto. Lesbiche. La prima cosa che farei è vedrei se c'è qualche problema di tipo ormonale o qualche problema di... Se invece mi dovessi accorgere che è soltanto una questione di loro scelta di vita, accetterei, come l'accettano con tutti i candidati. Ah, non ho capito. Dunque, lei la prima cosa che fa, se sua figlia le confessa, mi piacciono le donne, le manda dal medico a vedere se sono, oppure lui le visita lei? No, per... non le mando dal medico, gli faccio fare degli esami del sangue per vedere se sta bene la bambina, se c'ha dei problemi di alterata produzione ormonale. Quando vedo che la produzione ormonale è normale, lo accetto come una scelta. Avrò diritto di farlo o no? No, ma sì, per carità, lei ha diritto di fare quello che vuole. E se mia figlia mi dice mi piacciono le donne, dico vabbè, ci parlo, benissimo. Io non è che la mando a fare degli esami del sangue, cioè, mi sembra francamente una cosa un po' assurda. Comunque, pubblicità, torniamo tra un attimo, resti lì se può. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come... Ecco, caro sindaco Fabio Federico del PDL, ecco. Sindaco di Sulmona, ecco. Io fossi suo figlio un po' mi preoccuperei, però, devo dire la verità. Si preoccupi per i figli suoi. No, adesso è una battuta. I miei figli stanno benissimo, a parte gli scherzi. Lasciamo perdere i figli, che ho già ricevuto parecchie intimidazioni per me e per la mia famiglia, perché cioè? Questa cosa non mi piace. Cioè, che è successo, scusi? Ci sono delle su Facebook, anche sul web, ci sono anche delle frasi poco corrette nei confronti delle mie figlie. Cioè, legioni di omosessuali che l'aggrediscono, qual è la storia? Non so se sono legioni, sono singole persone che hanno delle frasi molto molto poco educate nei confronti delle mie bambine, che sono bambine ancora. No, certo, per carità. Quanti anni hanno? Quindi non credo, è una 8 e una 12. E non credo che darli delle prostitute delle mie bambine sia una cosa bella per un genitore. No, perché però questi sono il dazio che si paga con la macchina del fango. Ma adesso macchina del fango, non esageriamo, da parte dei figli, macchina del fango non esageriamo. Lei dice macchina del fango perché per la manipolazione, per voi. La manipolazione, lei dice di questo video. Esattamente per quello. Però mi pare che lei non è che è vero, il video sarà stato ritoccato, manipolato, però alcune cose lei le dice, non è che non le dice poi, cioè ma, non... mi consenta, ma vogliamo fare gli ipocriti oppure vogliamo fare le persone intellettualmente oneste? Lei è omosessuale, scusi se mi permetto. Ma no, non sono omosessuale. No, ecco, lei non è. Allora, lei non è omosessuale. No. Io ritengo, lei è un eterosessuale. Sì. Io ritengo che io sono normale. Lei ritiene che io sono normale? Come dice? Lei ritiene che io sono normale, per esempio? Esattamente come e invece gli omosessuali altri? Che non sono malati. Cioè, che non hanno problemi fisici. Lei è normale come tutti quanti gli altri. Ma guardi che gli omosessuali per definizione non hanno problemi fisici. Quella è un'altra categoria, riguarda l'ermafroditismo. Che poi, peraltro, quando uno dice parla di omosessuali, parla di persone che hanno tendenze sessuali diverse, ma non... Esattamente. Per cui non ci sono omosessuali con problemi fisici ormonali, cioè quella no, è un'altra cosa. Ci sono, ed è un'altra cosa, per fortuna le ho detto, è una cosa che invece riguarda la sfera medica ed è stata presa in quel contesto di quel discorso del tutto marginalmente. Ho detto fatti salvi questi, pronto? Sì, la sento. Fatti salvi questi, il resto gli altri, cioè la maggioranza, la quasi totalità, è una scelta. Quindi non si può dire che è un problema fisico. E io l'ho detto in maniera chiara, invece è stato riportato al contrario. E che sia stato riportato al contrario lo ha ravvisato anche la magistratura. Però mi scusi, quando lei dice che a sua figlia, se lei dovesse confessare una volta... Dovessi esprimere un mio desiderio, essendo un cattolico cristiano, e credo che la Chiesa sia d'accordo con la mia posizione, è che i maschi dovrebbero sposarsi con le femmine, le femmine con i maschi, se no non potrebbero avere figli, secondo ovviamente madre natura. Ma invece i rapporti sessuali... Quella madre natura che difendiamo col referendum sul nucleare. Non parliamo di altre madri nature. E invece tra uomo e uomo, donna e donna, i figli non si possono fare. Questo lo sappiamo. Si potranno adottare, si potranno fare tante cose, però purtroppo la nostra razza, la razza umana, è fatta in quella maniera e non è che la possiamo cambiare. Se fossimo tutti omosessuali, come faremo a riprodurci? Sì, ma questo è una cosa arcinata. E allora proprio comincia a rifletterci anche lei. Ma io ci ho riflettuto, è una vita che ci rifletto. Ci ho fatto così perché ci sarà un motivo, no? E dunque quelli sono contro natura, quelli che fanno due uomini o due donne che fanno sesso, come li giudica lei? Si divertono, esattamente come mi diverto io con una donna. Non è contro natura? Assolutamente, si divertono, a modo loro, ma si divertono. Certamente non potranno avere figli. Vabbè, ma questo è d'accordo come su questo, se almeno non possono avere figli, questo mi sembra fuori di dubbio. Ma lì almeno su un punto ci siamo: uomo uomo, donna e donna non possono fare figli, e quindi già c'è un qualche problemino, cioè una famiglia che sta di non poter fare figli, ma di poter adottare, che è un problema per l'unione, della coppia. Cioè, per esempio, un figlio adottato favorevole, da un figlio favorevole all'unione di fatto, perché credo nell'amore, quindi credo che due uomini o due donne possano amarsi. Non sono più d'accordo quando queste due persone vogliono, per esempio, perlomeno ne faccio oggetto di discussione, di grandissima riflessione, quando queste persone, quando queste coppie vogliono adottare dei bambini. Perché un bambino adottato, ci sono alcuni paesi in cui c'è questa... Io ho dei dubbi, io guardi, ho dei dubbi seri miei, interni. Ecco, perché che succede secondo lei a un bambino adottato da una coppia omosessuale? Come dice? Che può succedere a un bambino adottato? No, è quello che mi preoccupa. Come non lo sa? Che non c'ha il papà o non c'ha la mamma, o c'è due mamme o due papà, e mi preoccupo di quello che quel bambino può imparare, come la può prendere quando cresce. Ciò nonostante, è una mia cosa, è un mio pensiero. Perché non rispettano il mio pensiero di eterosessuale come io rispetto il pensiero degli omosessuali? Perché c'è questa forma di eterofobia, la chiamo io. Perché non si può esprimere un pensiero che urta minimamente la sensibilità omosessuale, che subito si scarica un intero esercito di ma si rende conto che da stamattina mi sta chiamando la RAI, Mediaset, tutto per questo stesso problema, che io ritengo poi una cosa assolutamente assurda. Anche la Carfagna ha detto affermazioni antistoriche e volgari. La Carfagna è assolutamente consapevole, perché già c'è passata nella macchina del fango, quindi dovrebbe essere assolutamente consapevole. Dunque prima di fare delle affermazioni, prima di fare dei comunicati stampa, lei c'è già passata, dovrebbe sapere come funzionano queste cose. Avrebbe dovuto telefonare al massimo. Dunque, lei non ha sentita oggi. Come? Dunque, non si è degnata di telefonarle, questo dice lei. No, io ho parlato col suo portavoce, gli ho detto, guardi che il ministro era impegnata è stata informata male, cioè gli hanno dato un dischetto che era assolutamente, gli hanno fatto vedere una un'intervista che assolutamente non risponde alla realtà, anzi esattamente il contrario di quello che io penso. E quindi però, mi aspetto che la Carfagna faccia una precisazione quantomeno, perché sennò ovviamente siamo su due linee diverse. Certo, le faccio ascoltare una parte di questo video che lei contesta però integralmente, quando dice li farei curare, sentiamo. Se poi dovessi vedere che le cose non vanno tanto bene, le farei curare, insomma, no? Perché chi è omosessuale fa una scelta che è contraria a che la natura gli ha indicato. Se hai degli ormoni maschili, se hai un genoma di tipo maschile, se hai i cromosomi X e Y invece di avere gli XX, fai il maschietto. Se c'hai gli XX, fai la femminuccia. Però adesso, in che cosa è stato manipolato? È stato tagliato nel punto in cui ho detto che se c'hai dei problemi, se c'è un XX o un XY e ti comporti al contrario, bisogna verificare se c'hai dei problemi di tipo ormonale o di tipo fisico. Perché poi aggiungo alla fine, e non so se è tagliato o se non è tagliato, dico, se invece è una scelta che non dipende da problemi fisici, nulla questo, non c'è nessun motivo di meno di stare a discutere. Cioè lei dal medico... Però come ho detto, lei non lo può ascoltare perché è stato tagliato. Parenzo, cos'è che non ti torna in questa vicenda? Non mi torna nulla. Primo, voglio dire, il parere autorevole del sindaco su cosa pensa dell'omosessualità mi interessa meno di zero, voglio dire, perché sentire e portare dal medico, fare le analisi, non mi interessa. Si occupi di amministrare bene il comune, di fare i tombini, di far andare bene i mezzi di trasporto e tutto quello che vuole. E mi auguro che lo faccia. Prima questione. Seconda, cosa non si fa per finire sui giornali? È evidente. No, ma in questo caso ce l'hanno messo il video online. Meno male che glielo dica a questo signore. Che avrebbe non è che l'ha fatto lui, Non è che l'ha fatto lui. L'intervista com'è nata? Così al mattino uno arriva e dice sentiamo il parere. È un'intervista di 5 anni fa, dica al confuso signore che parla dall'altra parte, che è un'intervista di 5 anni fa. Non l'ho chiesto io di andare, me l'hanno querelato per averla messa sul web. È un'intervista di 5 anni fa che non ha diffuso. Allora c'ha ragione. Allora se è questo c'ha ragione. Dopo sulla vicenda in sé. Sì. Però è peggio il confuso quando viene a spiegarci che ci sono alcuni omosessuali che sarebbero malati, perché mi verrebbe da dire, ma che ragionamento è, io un eterosessuale convinto e orgoglioso sarebbe come dire, siccome ho sempre mal di testa, sono un eterosessuale malato perché ho sempre mal di testa, ma che discorsi sono? Ma cioè, questo signore ha ascoltato quello che ho detto oppure non vuole ascoltarlo? Ma anche troppo, perché o non le funziona il telefono oppure non vuole ascoltare quello che le ho detto. Non no, ho sì, detto io ho ascoltato, ho detto che se sono un etero con il mal di testa. Cioè lui contesta, è... Parenzo contesta il fatto che lei dica che ci sono degli omosessuali malati, questo è il punto. Cioè, perché certo. Che non ci sono degli eterosessuali malati, scusi. Ho capito, no, appunto. Ma non lo direte mai, no? Però lei non lo, lei non lo dice, sì, invece parla degli eterosessuali. Come non lo dico? Sì, ho capito, però... Ci sono degli eterosessuali che sono pedofili, sono normali pedofili. No, adesso ma lei... no, ma è evidente. Mi risponda ma... lei adesso. Ma no, certo che no. Certo. Allora di che cosa stiamo parlando? Ma no, di che cosa stiamo parlando? Ma quale sarebbe la malattia che hanno alcuni omosessuali? Io ancora non l'ho capita. Cioè allora le ripeto, noi abbiamo due tipi di estrogeni nel nostro corpo, uomini e donne, che si chiamano testosterone ed estrogeni. Negli uomini prevale il testosterone, nelle donne prevalgono gli estrogeni. Quando una patologia surrenale, per esempio un adenoma dei surreni, determina una eccessiva produzione dell'altro sesso, cioè degli estrogeni nel caso di l'uomo, né testosterone rispetto a una donna, questi uomini e queste donne cominciano ad assumere innanzitutto le sembianze dell'altro sesso, perché i caratteri sessuali secondari, cioè lei uno un po' effeminato per esempio, un uomo un po' effeminato secondo una lei? Una donna può essere una, può avere il sudismo, può avere un aspetto androgino, un uomo può avere ginecomastia, può avere, perché c'è una patologia, santo di Dio, una malattia, è un tumore del surreno. Ma quanti ce ne sono lei in percentuale, quanti ce ne sono tra gli omosessuali? Ma no, non ce l'ho le statistiche, ma ci sono delle persone che sono in queste condizioni e sono stati richiamati in quell'intervista proprio per escluderli, cioè per escludere, detto questi sono quelli che vanno curati. Poi ci sono delle altre persone che hanno fatto una scelta di vita. Ma secondo lei quelli che fanno una scelta di vita si può cambiare? Non sono malati. si può portarli da qualcuno? Ci sono dei corsi particolari per recuperare? Non so se la RAI ha fatto questi corsi. Questa è Radio 24, non è la RAI. È uno scherzo, ovviamente. Sicuramente non ne conosco, perché non credo che ci sia necessità di portarli da qualche parte. È di oggi il caso di una coppia di un uomo, marito e donna e moglie, che si sono sposati, dopo un po' il marito è diventato donna. E tanto che hanno avuto problemi, l'ha detto proprio voi. Ho capito, ma perché lei si è concentrato a parlare di casi che sono un'assoluta minoranza anche tra gli omosessuali, cioè degli scompensi fisici? Infatti là è l'aberrazione che state dicendo, che io non mi sono concentrato, e chi ha manipolato l'intervista che si è concentrato? Vabbè. Avete afferrato adesso? Vai. Sindaco, grazie. L'unica cosa che non mi torna. Sono confortato. No, ma io abbiamo ascoltato, abbiamo fatto domande, cioè non è quello il punto. L'unica cosa che non mi torna è quando lei dice, mia figlia mi dice, mi confessa che sono lesbica, e la prima cosa che faccio è vai a controllare il sangue. Questo un po' mi colpisce. Io lo farei anche se mi dicesse ho eccessiva fame o eccessiva sete, ho troppa debolezza. Lo farei in ogni caso, perché la salute fisica è la prima cosa che Ma non è la stessa cosa, ma che c'entra, che c'entra con col fatto che gli piacciono le donne e la salute fisica? Adesso vorrei escludere, se mia figlia mi dicesse, se mia figlia cominciasse a manifestare dell'irsutismo, per esempio gli crescono i peli in maniera anomala, oppure se dimostrasse una crescita di grasso nei luoghi androgini e non ma è diverso ginoidi. Col fatto che uno gli possa crescere le donne quello potrebbe essere anche giustificato, uno va dal medico perché c'ha un irsutismo particolare come dice lei, oppure una sudorazione eccessiva o non so che cosa. Se la figlia le dice ho delle pulsioni diverse da quello che io mi chiamo con un nome. No, sua figlia le direbbe: a me piacciono le donne, mi piace fare l'amore con una donna. Io gli dico: vediamo se non c'è un problema fisico. Dopodiché, se è una scelta la tua, la rispetto. Vabbè. Ma mi fai una prova di diritto di controllare? Sì, da padre, no, per carità. Se c'è qualche problema, per carità. Guardi, che sono certo che lo farebbe anche lei. Lo farebbe qualcuno. Le assicuro che io non lo farei. Comunque, non lo farei. Che vuoi? Io ho un problema, ho troppi peli nel naso. E comunque, mi dia la possibilità di riconciliarmi con gli omosessuali italiani. Non ce l'ho. Con gli omosessuali, ma lei l'ha già detto. Gli omosessuali mi stanno anche simpatici, perché sono perso sensibili e ma questa è una stupidaggine che si dice sempre, sindaco, quando uno ha i pregiudizi, dice gli omosessuali sono fantastici, sono delle persone di una sensibilità pazzesca. Esistono persone sensibili tra gli omosessuali e gli eterosessuali, non c'entra niente l'omosessualità con la sensibilità. Quindi come vede, anche l'omofobia, anche in questo caso, non si dovrebbe parlare di omofobia. Sì, no, ma è una, no, ma assolutamente io non sto dicendo che lei è omofobo. Non capisce il nesso che le sto dicendo. No, non ho capito bene. Non c'è forma di ghettizzazione degli omosessuali. Gli omosessuali sono come gli eterosessuali. E no, io lei dice che sono più sensibili. L'ha detto lei, sono più sensibili. Sono più sensibili. Però ho capito, ma non è vero, è una stupidaggine. Gli amici miei omosessuali sono più sensibili. E perché sono più sensibili? In cosa dimostrano di essere più sensibili? Me lo dimostra il loro, la loro come dire, attitudine a cogliere degli aspetti della vita che io francamente non ho, forse per una questione mia di carattere, una questione, non so, ma io loro li vedo molto più attenti a determinati I suoi amici omosessuali hanno fatto gli esami del sangue pure loro? Sicuramente alcuni li ho fatti io. Addirittura. Certamente, faccio il medico, io l'ho detto. Ah, cioè, tu quando incontri un omosessuale la prima cosa che dice ha fatto l'esame del sangue per vedere se c'ha scompensi. Quella è un'altra cosa. Sto scherzando. A chiedermi di fare le analisi. Ora vi faccio dire cose che non ho detto. Va bene, va bene, posso chiedere una cortesia, abbiate più rispetto pure per gli eterosessuali, perché una Non c'è bisogno di avere rispetto per tutti, non per gli etero, per gli omo. Una cosa che non mi piace e la confermo, una cosa che non mi piace, perché quella è una forma di ghettizzazione nei confronti degli omosessuali, nei confronti di se stessa, è la ostentazione della loro ostentazione, che io trovo assolutamente fuori ma luogo. Ma anche gli eterosessuali ostentano il proprio macismo, è la stessa cosa. Non è vero, io non vado in corteo. Ma lei no, ma c'è un sacco di gente. Ho capito, ma quella è un'altra cosa. E quelli che ostentano troppo. Secondo me non fanno una cosa fatta bene, non c'è modo, non c'è motivo. Ma anche di due che si basano. Allora, scusi un attimo, se a Sulmona, lei è sindaco di Sulmona, giusto? Sì. Vede sulla piazza del comune due uomini che si danno una bella bacio con la lingua, di quelli proprio passionali. No, che fa lei? Io lo trovo sconveniente anche tra uomo e donna. E guarda, che fa lei quando vede questi miei omosessuali? D'altra parte, che devo fare? Io trovo sconveniente, fate in giro con mia moglie e con le bambine e vedo due che si baciano, uomini o donne che siano, etero o uomo che siano, lo trovo sconveniente. Non me la racconta giusta ritengo, su questo, non me la racconta giusta. È l'ultima cosa che le dico, è l'ultima cosa che le dico, che il sesso sia una cosa talmente privata, talmente intima, che deve avere una discrezionalità nell'essere questo è un altro che assolutamente è un errore portarla sui camion con le bandiere. La devo lasciare. Grazie. Traffico. Grazie a voi. Eccoci, 20 e 21, caro Parenzo, in viaggio verso Rimini, verso Riccione. Ci sei, mi senti? No, naturalmente. Parenzo? Va bene, Marcello da Bologna. Salve. Dica. Volevo intervenire, secondo me la trasmissione sta cadendo in basso. Sì. Nel senso che, vabbè, a parte questa conversazione un po' pallosa, però voglio dire, nel senso, lei secondo me è un po' servo di Berlusconi, devo dire. Marcello, lei è banale. No, nel senso, scrive sul Panorama. Sì, allora? Quindi Panorama, da chi è, beh, da chi è il proprietario di Panorama? Mondadori. Vabbè, Mondadori. Ride. Poi va bene, adesso vediamo, perché per esempio, adesso guardi, le dimostro che ho ragione io, la sua analisi sul referendum lasciamo perdere, nel senso che, cioè, voglio dire, non si deve, cioè voglio dire, è un referendum politico, quindi non ci sono discussioni. Sulla cultura, anche l'altra volta, invita la gente a non studiare la letteratura italiana, cioè voglio dire, Dante, Petrarca, i padri della letteratura, come si fa? Lei vaneggia. No, vabbè, insomma, lei vaneggia. Secondo me è così. Cioè, io se fossi la signora Marsegaglia... Io non ho invitato nessuna, non ho invitato per niente a non studiare la letteratura italiana. Lei sta vaneggiando, Marcello. No, vabbè, però c'è questa concezione... No, non va però, cioè ride, va però. Io non ho affatto detto che non bisogna studiare la letteratura italiana. Di che parla? Di cosa sta parlando? Sta dicendo delle stupidaggini colossali, e non se ne rende conto. E non se ne rende conto nemmeno, oppure se ne rende conto e sta scherzando, sta cercando di coglionarmi. No, ma questo concetto che bisogna studiare per produrre denaro, per produrre profitto, è una concezione borghese, va bene. Tutto qua. E poi l'ultima, e poi anche, scusi, sul caso Borghezio, come si permette di insultare della gente che muore, 9.000 persone? Lo dica Borghezio. Sì, ho capito, ma lo dica Borghezio. Come se uno difende Hitler e lei lo intervista. Certo che l'ho intervisto, tutta la vita, certo che l'ho intervisto, ma magari ci fosse qualcuno che difende Hitler, l'ho intervisto subito. Ma non è corretto. Non è corretto, secondo lei non è corretto. Io se fossi la signora Marsegaglia... Ancora, ridaglia questa cosa. Cioè, E poi magari lei è pure il paladino della libertà di informazione, le cose, sicuramente, no? Sì, sì, io scrivo una lettera, scrivo una lettera. E scriva, scriva. Scrivo una lettera alla direzione. E scriva, scriva. E scriva. Poi anche polemizzare su Grillo, basta. Basta, cioè, voglio dire, sinceramente. Basta, non bisogna polemizzare su Grillo, bisogna avere... Ma chi è questo signore, cattore e censore, chi è? Ma non lo so, un signore che rimarrà chiama... la sua trasmissione, lui, e lei traslocherà insieme al signor Parenzo, rimarrà la zanzara con un altro... Vabbè, è uno che vuole fare, vuole cercare di... Cioè, vuole, sta dicendo delle cose anche scherzosamente, così pensa di coglionarci, viene a rubare a casa dei ladri. Scusi, Marcello, abbia pazienza. Vi tirate il frisbee, lei è Parenzo, vi tirate il frisbee, un tiro al rimpiattino. Sì. Secondo me anche Parenzo un pochino, magari sì, scriverà anche lui su Panorama una piccola rubrica. Di sì, foto. Ma non è un crimine, non sarebbe un crimine. Sì, ho capito, ma dai. Lo farei, se ve lo proponessero lo farei. È un crimine scrivere su Panorama? Non lo so, boh. Sì, ho capito, ma lei si dice di sinistra, poi è liberale, non si capisce. Ma cosa c'entra? Ha degli evidenti limiti il signor Marcello, ma non c'è problema. Ma che cosa c'entra? Ah, perché scusi, Claudio Bisio, che lavora a Mediaset ed è di sinistra, è un criminale? Sì, ho capito, ma un liberale non può essere per Bisio. No, ma lei non ha capito, questo è il punto. No, ma lei proprio non capisce. Cioè, lei non ha capito, cioè... non ha capito. Io scriverò una lettera alla signora Marzegaglia. Ma lei può scrivere tutte le lettere che vuole a chiunque, non c'è problema, cioè non... Poi secondo me l'audience è calato. Sì, è calatissimo. Cala in crollo totale. Marcello. È in crollo totale. Crollo totale. Perché infatti io ho già su Facebook, ho scritto boicottate la zanzara. Bravo, sicuramente è un grande seguito questo suo, boicottate la zanzara, questo suo appello. Grande. Grandissimo seguito. Un sacco di sottoscrizioni. Ma lei fa il comico di professione oppure comico, diciamo, di quart'ordine? No, cioè, diciamo che quando il livello del mio paese, il livello culturale del paese decade, io da italiano certo, e reagisco. E reagisce, soprattutto è uno di quelli che innalza il livello culturale del nostro paese. Insomma. Beh, se riuscirò a far chiudere la sua trasmissione ne sarò soddisfatto. Ma guardi, io sono pronto a scommettere qualsiasi cosa che lei non ci riuscirà, ma giusto perché la voglio prendere sul serio, caro Marcello, voglio prendere sul serio quello che è evidentemente una cosa non seria, perché lei sta giocando e sta scherzando, ma ripeto, sta cercando di venire a rubare a casa dei ladri, cioè, tanto per essere chiari, insomma. Però... No, io la rispetto sul piano umano. Ci mancherebbe pure. La ringrazio di questo, però, caro Marcello, che me mi rispetto sul piano umano, la cosa mi risolleva un po', devo dire. Intanto io scrivo una lettera alla direzione, poi ma scriva le lettere, ma perché non la scrive anche Napolitano? Infatti... ma secondo me la signora Marzegaglia ha una visione lungimirante, che non ha la direzione, che non è il direttore della radio, è l'editore, ecco, vorrei informarla. Poi tanto il governo cade, quindi l'appoggio di Berlusconi da parte sua decadrà, quindi il suo potere, diciamo, di influenzare l'opinione pubblica sarà limitato. Sì, certo. Una cosa pazzesca. Campione del mondo questo signor Marcello. Io credo che stia scherzando. No, assolutamente. Io non scherzo assolutamente. Ma lei sta scherzando, non faccia simpatico. Ma lei sta scherzando perché è evidente che sta scherzando. Sta cercando di prenderci in giro. Ma non è scherzando. Io dico le cose come stanno. Assolutamente. Cioè, secondo me, voglio dire, questa trasmissione deve, cioè, secondo me scomparirà. Scomparirà e vedrà che la faranno andare, non so, a Tele una trasmissione popolare, dai, quelle regionali, del 2% d'ascolti. Lei, signor Parenzo, cioè, voglio dire, quando la cultura non c'è, invitare la gente a non studiare. Sì. Anche su Woodcock, un qualunquismo totale, cioè, voglio dire, un magistrato che fa delle indagini non va bene, perché lei deve difendere Berlusconi sempre, ci credo, lo paga, lavora su Mediaset a controcampo, come fa a dare contro Berlusconi, un controsenso? Vada, prosegua Marcello. È stipendiato. Vada, che andiamo forte. Cioè, andiamo forte, so Marcello. Continui. Non so che tiro sull'odio. Continui. Mi dia soddisfazione. Continui, Marcello. Mi candiderò a dirigere la trasmissione io. Almeno sì, si candidi lei. Si candidi lei. È una cosa fantastica. È il suo complice. Vada. Continui, Marcello. Cioè, continui. Il signor Palese è suo complice. Non si può tirare indietro. Continui. Lui è bravo. Lei no. Siete tutti e due sulla stessa barca. Bene. Qual è la sciocchezza che non ho sentito? No. Siete complici del sistema berlusconiano. Siete complici. Lei, guardi che la parola complici... Io lavoro su Panorama. Prende i soldi su Mediaset e lei gli fa da spalla. Liberale di sinistra. Ma dove si è mai sentito un liberale di sinistra? Vabbè, ma insomma siamo al delirio. Caro Marcello, ho ascoltato questo lungo delirio che avrà soddisfatto il palato dei più tenericiuti ascoltatori che noi abbracciamo. Le do... Il prossimo anno alla Zanzara scomparirà. Sì, grazie. Adesso, lo dica bene così domani l'anno prossimo. Sì, ma tanto la Marcegaglia penso che sia una persona. Eh certo, soprattutto di quando. Quando sente lei. Quando sente lei. Sinistra, le ripeto, anche i giornali di Berlusconi non venderanno più, magari lei. Insomma. Non dico che comunque la sua notorietà insomma verrà meno, diciamo, anche perché il livello della trasmissione è sinceramente molto basso, quindi non c'è problema su questo, vedrà che l'avrò vinta io. Sì. Dove si trova esattamente lei? Io a Bologna. Bologna, ma in che via? Io a via San Vitale. Via San Vitale, Parenzo, sì. Ci sei? Via San Vitale, numero? Numero 58. 58, che c'è scritto sul citofono? Savelli. Bene, Savelli. Grazie. Se arrivano dei signori in camice bianco che vogliono portare, sia gentile, non fanno nulla, vogliono solo curarla. Li mando da lei. Appunto, no, da me no, perché li mando io, per cui è difficile. Però sia tranquillo, calmo, non succede niente. Oppure a casa di Berlusconi. È molto veloce. La cosa, lei la conosce bene. Io non ci sono mai stato. La casa è molto veloce. La cosa è molto veloce. La portano via una notte. Poi comunque, naturalmente dai, c'è la cura, vedrà che fra poco la sì, assolutamente. Io lo dica anche a quei signori in camice bianco, glielo dica. La Zanzara chiude. Ma io lo dica ai signori in camice bianco quando arrivano tutte queste cose qua, glielo dica. Dunque loro segnano bene la prognosi, poi lei dica esattamente dai, tutte queste cose. Sia contento che l'odio sia salito. Sì, insomma, lei tutte queste cose qua le deve dire ai signori in camice bianco quando arrivano, che loro studiate Dante, italiani, non date retta a Cruciani. Mi raccomando, e sia preciso con tutte, anche questa cosa qua, gliela dica ai signori in camicia bianco, dica tutto. Vedrà che avrà dica tutto, testo. Dica tutto senza problemi, borsa. L'ambulanza va mentre la città finalmente sa che mostro sei. Tu pietà non hai. Eccoci. Renzo? Eccolo. Che punto sei? Guarda, sono a un punto che tra un po' dovrei arrivare a Firenze, la città di Renzi. Ma perché? Che stai facendo? Roma, Bologna e poi Bologna... Non credo che abbiano ancora spostato Bologna, bisogna passare per forza per Firenze. No, perché no? C'è un treno diretto Roma-Rimini in realtà. Vabbè, veramente? Sì, tu non lo sai. Sbaglio sempre, tutte le volte. Paolo da Milano, buonasera. Buonasera a lei. Dica. Io volevo semplicemente condividere e congratularmi col sindaco di Sulmona che finalmente ho sentito una persona che assume una posizione senza omofobie o forme di machismo particolari, una posizione equilibrata sui rapporti tra uomo e donna. Quindi volevo semplicemente congratularmi per il suo intervento che peraltro ha avuto contenuti tecnici non gridati e è stata una persona mi scusi adesso perché... per carità adesso sull'equilibrio del signor sindaco di Sulmona, il quale alla figlia farebbe fare un esame del sangue se dovesse scoprire che è omosessuale, ci sarebbe da discutere, per carità. Sì, poi... ma Cruciani gli ha dato motivazioni tecniche, non ha dato motivazioni. Questa cosa qua non ha nessuna motivazione tecnica. Il fatto No, le ha dato delle motivazioni. No, tecniche. Ma lasci perdere le motivazioni. Non è che uno con la tecnica spiega tutto. Cioè, le ha dato delle motivazioni. Nel caso della medicina direi di sì. Ma nella maniera più assoluta, no. Ma cosa c'entra la medicina applicata all'omosessualità? Sono due concetti diversi. Ma gliel'ha spiegato tre volte, Cruciani. No, caro Paolo, allora intendiamoci, io sto dicendo un'altra cosa. Lei ha figli? Io sì. Ha figli. Quanti ne ha, scusi? Uno. Maschio, femmina, cosa? Maschio. Quanti anni ha, scusi, mi faccio gli affari suoi? È molto piccolo, 3 anni. 3 anni, benissimo. Allora, lei è preoccupato che possa diventare omosessuale? No, non ci penso mai a questa cosa. Non ci pensa nemmeno. Se un giorno dovesse dire, guarda papà, mi piacciono gli uomini. Mi dispiacerebbe, ma sinceramente... Vabbè, questo è normale. Non... Sì, no, certo. Lo porterebbe a fare non potrebbe mai avere figli perché probabilmente verrebbe ghettizzato da qualcuno, però questo non mi porterebbe mai a non volergli bene, a non stargli vicino. Va bene, ma ognuno può avere, per carità, ma è giusto che lei pensi di avere questa reazione, poi non si può dire perché naturalmente non si possono prevedere le reazioni future. Quindi ho risposto ipoteticamente. No, certo, ma lei lo porterebbe da un medico a controllare i cromosomi o controllare il sangue? Io non mi ero mai posto il problema, però siccome la persona, il sindaco di Sulmona, ha dato una motivazione di tipo medico, mi informerei se è vero quello che ha detto e se fosse vero lo voglio... No, è una stronzata, cioè, non è che è vero. Ogni tipo di patologia fisica. No, no, però mi scusi Paolo, su questa cosa bisogna intendersi, perché è una cosa diversa, il fatto che uno possa essere dispiaciuto o possa pensare magari lo ghettizzano, non può avere figli, questo sono tutte cose ultra comprensibili, forse non ho capito, la cosa strana è che hanno sbagliato tutti i genitori che hanno figli omosessuali, e sono tanti in Italia, fino adesso hanno sbagliato perché non li hanno portati dal medico. Ho capito, ma insomma è una cosa assurda. Cioè, se lei sto dicendo che se a livello medico dovessi verificare, in base alle affermazioni del sindaco di Sulmona. Ma non è uno scienziato mondiale il sindaco di Sulmona, cioè non è che. Avere la stessa origine di tipo medico, io lo farei controllare, certo. Ma questo non deve sconvolgere le vostre mentalità libera, voglio dire. Non è mentalità libera, è un altro discorso. Non ha parlato. Scusi un attimo, non ha parlato. Lei è molto brillante intellettualmente, anche se spesso non sono d'accordo con lei. Ma non ha parlato il guru della genetica mondiale, cioè non è che ha parlato il guru, è il sindaco di Sulmona, abbia pazienza. Cioè potrà essere un medico bravo, ma è il sindaco di Sulmona. Secondo lei non ha avuto un intervento di tipo equilibrato e non è stato... No, ma io non sto dicendo l'intervento equilibrato, non no. Non ha avuto nessuna forma di razzismo, di omofobia. Vabbè, come ma lasciamo perdere. Sto dicendo questo, Paolo, io sto dicendo se lei si è convinto che nel futuro suo figlio, se dovesse mai esprimere delle posizioni di un certo tipo, delle cose, lo manda dal medico dopo aver sentito il sindaco di Sulmona Radio 24. Io lo mando dal medico, mi informo, e se l'omosessualità può essere l'effetto di una causa di tipo medico, e questo né io né lei siamo medici, quindi penso che né io né lei siamo nella posizione di poterlo giudicare. Abbiamo fatto un danno, Lorenzo, abbiamo fatto un danno. Fosse così io lo farei controllare, certamente. Ma credo che sia il problema, non credo che ci sia nulla di male in questo. No? Mi faccia capire questo, se suo figlio disgraziatamente dovesse avere dei problemi in matematica, lo manda dal medico? Per dove la relazione Parenzo, mi scusi ma mi sfugge, perché considerare una come dire quello che lei considererebbe una mancanza, no, cioè il fatto una anormalità, cioè non ha un talento, non capisce niente di matematica, lo manda a ripetizione, lo manda dal medico. Allora, se va male in matematica, io direi che per capire se una persona, se ho ben capito la sua domanda, ha delle deficienze mentali, penso che si possa capire. Vabbè, comunque, guardi, dall'andamento in matematica l'idea di mandare, scusi, vedersi degli sintomi evidenti, non parlate insieme, lo manderei da un medico. Sono semplicemente male in matematica perché esce con le ragazze o si va a bere la birra. Sì, no, però adesso lasciamo perdere gli esempi con la matematica, eccetera. Mandare una persona dal medico perché è omosessuale è una follia, punto. Ma assolutamente. Non c'è discussione su questo. Evidentemente il sindaco di Sulmona pensa che si possano scoprire non so quale deviazioni cromosomiche e poi eventualmente curarle, ma insomma non riesco a capire, cioè, a parte che si vedrebbe subito, perché c'è, ripeto, una parte minima di deviazioni dei cromosomi ormonali eccetera, che è subito evidente, insomma, diciamo dalla nascita più o meno. Vabbè Paolo, grazie. Abbiamo questo servizio in cui Berlusconi parla a una sala vuota, un convegno organizzato da Nucara in Calabria. Conosci il signor Nucara, Parenzo? Signor Nucara è uno dei politici più importanti della Seconda Repubblica. Signor Nucara non è repubblicano. Esatto, è il segretario del Partito Repubblicano, non c'è dubbio. Sono tre partiti repubblicani, se non ricordo male, no? Sì, intanto è uscita un'agenzia in questo momento. Sindaco Sulmona, esame del sangue a mie figlie se si dicessero gay. Vabbè. Per forza, meraviglioso. Sì, io sono anche un po' dispiaciuto, devo dire la verità, perché quando sento queste cose lui mi ha detto: ma lei a sua figlia non lo farebbe? Io ho fatto no, veramente no, cioè, se mia figlia mi dicesse mi piace una donna, io dico vabbè, mi piace una donna, spero che tu sia felice, ma lo direi comunque anche se uno mi dice mi voglio sposare, no, con uno, lo direi, spero che tu sia felice, avrei la stessa reazione, ma magari sbaglio io, ma potrei anche preoccuparmi, però ecco, l'ultima cosa che mi verrebbe in mente è quella di farle fare un esame del sangue, proprio l'ultima, ma ci ho pensato fare a lui l'esame del sangue, ma io non l'ho sentita, io non l'ho mai sentita tra l'altro questa cosa, cioè non penso che ci sia una corsa da parte dei genitori di figli omosessuali a fare l'esame del sangue, per cui è solo lui che lo fa. Lo scienziato di Sulmona, premio Nobel. Servizio di Nucara, mi dicono molto spassoso, servizio su questo convegno di Nucara in cui Berlusconi a un certo punto parla ad una sala vuota, non si accorge di parlare ad una sala vuota, non è colpa sua in questo caso, e a un certo punto declama linee alla fine viva l'Italia, viva gli Stati Uniti, perché era un convegno organizzato da Nucara in collaborazione con non so che cosa, un centro studi americano. Sentiamo. Berlusconi telefona ad un convegno in Calabria, ma stavolta ad ascoltarlo non c'è quasi nessuno. C'è la luce, alzo volume. Alzo volume? Ah, certo. Ma tu stai parlando con Berlusconi proprio, ma fammi capire. Pronto? Bene. voto di tutto il governo. Silvio Berlusconi telefona quando la sala di Campora San Giovanni, provincia di Cosenza, si è già svuotata. Problemi tecnici, telefonata da Palazzo Chigi rinviata, la gente se ne va. Alla fine restano solo i tecnici, Nucara e i vertici della fondazione. Io ti ringrazio e adesso ti passo sia Peter Caruso che il segretario e poi il presidente Mirabelli. Presidente Berlusconi, grazie per tutti. Berlusconi termina la sua telefonata ringraziando tutti. Ancora grazie, viva gli Stati Uniti d'America, che anche gli italiani, figli e nipoti di italiani, hanno contribuito a rendere grandi, e naturalmente viva la Calabria e viva l'Italia. Non c'era un'anima, Parenzo, non c'era un'anima. Ma chi gli ha fatto sto scherzaccio? Nucara è stato. Sì, Nucara non gli ha detto che la sala si era svuotata. Dunque Berlusconi pensava di parlare ad una platea numerosa. E ha applaudito poi. E a loro, questi tre che erano rimasti, Nucara e non so quale calabrese. E lui per quanto ha parlato Berlusconi? Beh, il tempo che hai sentito, adesso non so, ha fatto un intervento di 2-3 minuti, una cosa pazzesca. Chiamiamo Nucara. Facciamoci spiegare da Nucara quello che è successo, il nostro amico Nucara, una cosa pazzesca. Carmine da Lecce, buonasera. Buonasera, dottor Cuccia, sono in linea? Sì, più o meno, fino a prova contraria, lei è in linea. Sì. Vabbè, vediamo. Senta, io volevo sommessamente contestare il suo modo di condurre. Dai, no. Ma stasera è una fissazione, ma che è successo stasera? No, signor Cruciani, no, io sono purtroppo sono un suo fan, ma devo dire che negli ultimi 20 minuti, a seguito di quella telefonata di quel mezzo pazzo che lei ha lasciato parlare per 12 minuti circa, voglio dire, anche il conduttore meno accorto, insomma, non sarebbe caduto in questa specie, cioè, di... Lei mi vuole rimproverare, alcuni mi accusano di far parlare poco le persone, adesso lei mi vuole rimproverare perché ho fatto parlare un ascoltatore 12 minuti, vabbè, d'accordo. No, non ha fatto parlare un ascoltatore, lei ha permesso che dicesse, vuole dire, possono essere anche cose interessanti e condivisibili, ma non ha importanza, non ha fatto altro che parlare per 12 minuti delle stesse cose, cioè lui... Quello che ha detto l'ha detto in 30 secondi. Beh, ho capito, adesso con tutto il rispetto, Carmine, lei può fare le critiche che vuole nel merito di alcune questioni, però adesso non è che mi può criticare perché tecnicamente devo interromperlo prima invece di fare 12 minuti. Abbia pazienza, quello lo decido io. Certo che lo decido. Ho capito, ma lei non può fare l'intervento. Guardi, lei secondo me in 30 secondi aveva detto tutto, dunque 12 minuti sono troppi, allora, forse ci annoiamo. Ho capito. Le spiego perché? Perché io dopo aver ascoltato quello che ha detto, l'ho riascoltato per dopo ancora un minuto e vabbè, ho detto la stessa cosa. Al terzo minuto ho cambiato canale. Beh, invece c'è stato... Mi scusi Carmine, abbia pazienza, c'è una marea di gente, c'è una marea di gente che è rimasta ad ascoltare... Ma mi faccia finire un attimo. Roba da matti, sarò un matto, ma mi... No, ho detto roba da matti, è diverso. No, è la stessa cosa, roba da matti, se sto parlando io vuol dire che io la penso... Non le ho dato del matto, su, non sia così... Dottor Cruciani, la sto dicendo, io ho ascoltato quello che ha detto il... Si è annoiato e ha cambiato, può succedere, succede ogni tanto. Non mi sono annoiato perché era noioso il discorso, mi sono annoiato perché ha detto la stessa cosa per un minuto intero. Ho capito, per me è stato uno spettacolo meraviglioso invece sentire quelle cose, uno spettacolo fantastico. Allora sì, abbiamo idee diverse, ogni tanto abbiamo idee diverse di come ci si annoia o ci si diverte. Ma si autoincensa? Allora, no, non mi autoincenso, spesso faccio errori, non si preoccupi, me lo dico... Beh, basta ammetterlo. In questo caso non lo ammetto, che mi vuole ammazzare, lo ammetto altre volte, in questo caso no. Io sto dicendo perché mi è venuta la tentazione, ho cambiato canale. La ringrazio, ne terrò conto. Per questo, tutto qua. Grazie. Prego, traffico. Francesco Nucara, buonasera. Buonasera a voi. Che è successo? Che avete combinato a quel poverino di Berlusconi? Si aspettava una folla, un minimo di platea, di cose, e l'avete fatto parlare con la sala vuota? No. Come no, è così? No, lei o non ha visto o non ha sentito. Così, qua c'è un servizio. Informazione sbagliata. Allora, le faccio sentire il servizio del TG3 che è andato in onda, l'ha visto già lei? No, io non l'ho visto. Allora, glielo faccio sentire, tanto uguale, Servizio TG3. Berlusconi telefona ad un convegno in Calabria. Ma stavolta ad ascoltarlo non c'è quasi nessuno. C'era luce. Alzo volume. Ah, certo. Ma tu stai parlando con Berlusconi proprio? Ma fammi capire. Pronto? Bene, volevo portarvi un saluto di tutto il governo. Silvio Berlusconi telefona quando la sala di Campora San Giovanni, provincia di Cosenza, si è già svuotata. Problemi tecnici, telefonata da Palazzo Chigi rinviata, la gente se ne va. Alla fine restano solo i tecnici, Nucara e i vertici della fondazione. Io ti ringrazio e adesso ti passo sia Peter Caruso che il segretario e poi il presidente Mirabelli. Presidente Berlusconi, grazie per tutti. Berlusconi termina la sua telefonata ringraziando tutti. Ancora grazie, viva gli Stati Uniti d'America, che anche gli italiani, i figli e i nipoti di italiani hanno contribuito a rendere grandi, e naturalmente viva la Calabria e viva l'Italia. Lucara, la sala era vuota, mi sembra, alla fine, no? No, intanto c'è, mi vede. Io sono un giornalista dilettante, non sono come voi, no? Intanto non era un convegno. Vabbè, il adesso... primo errore del TG3, no, non era un convegno. Vabbè, ho capito, è uguale. Cos'era? Non stiamo... No, non è uguale, guardi, non è uguale. Che devi dire che è uguale? No, era una cerimonia di premiazione, di consegna di 150 borse di studio. Sì. E non era un convegno. Non vabbè, ma adesso questi sono dettagli, su. No, beh, devo dire la verità. No, ma va bene, va bene. Lei vuole la verità è un dettaglio, invece per me... No, okay, ma non è il punto, non è la questione. Te lo sto spiegando. Vabbè. Era la... la sala vuota. Dopodiché, era vuota alla fine. Del presidente... Mi lascia parlare? Sì, prego. Avete cercato, mi sono sentito tutta la pubblicità, abbia pazienza. No. Le sto dicendo perché la sala era vuota, perché era vuota oggettivamente, non è che mi sto dicendo che era piena. Certo. Il collegamento col presidente Berlusconi era previsto alle 5. Sì. Berlusconi non ha voluto parlare fino a quando non poteva interloquire, non voleva parlare solo lui, mandare un messaggio, il messaggio me l'aveva già dato. Era il messaggio scritto, quindi voleva interloquire, voleva parlare con me, voleva parlare con il presidente della fondazione, voleva parlare con gli altri membri della fondazione che sono per la maggior parte degli americani, ma ci sono anche degli americani. Quindi fino a quando non è stato possibile questo, lui non ha voluto parlare. Naturalmente finita la consegna delle borse di studio, i ragazzi sono usciti fuori, c'era una banda musicale, l'inno degli americani, l'inno Fratelli d'Italia, quindi quando è arrivato il suo messaggio eravamo una ventina, 30 persone, non i tecnici. E perché non gliel'avete detto che non c'era più nessuno? Io non sono un tecnico nemmeno a accendere la televisione. Ho capito, ma Berlusconi aveva l'impressione di essere di fronte a una platea, era evidente dal tono dell'intervento di Berlusconi, perché altrimenti non avrebbe detto viva l'Italia, viva la Calabria in quel modo. È evidente che si pensava di essere di fronte, ma non per sua responsabilità, ad un minimo di platea, invece non c'era nessuno. No, i ragazzi sentivano perché erano fuori, non è che i ragazzi sono andati a casa. I ragazzi erano nell'ambito dell'albergo, nella sala non c'era. Ho capito, però la sostanza è questa. No, ma adesso non ci dica che... Ma è un gioco, ma non è una cosa grave. Ma non è una cosa grave, ci si può anche scherzare. Appunto, sto dicendo che c'è stato un problema tecnico. Ecco. Sto dicendo che Berlusconi si è rifiutato di parlare solo lui, fino a quando non aveva interlocutori. Ho capito, però potevate avvertirlo, guardi, non c'è più nessuno, presidente, qui dentro la sala. No, e torna. A lei mi vuole fare dire cose, siccome io ero là, lei dov'era? No, ma ho capito. No, allora, ma era chiaro dicendo, che, scusi, sto dicendo che i ragazzi si erano alzati dalle sedie perché avevano avuto la consegna delle borse studio ed erano nell'ambito dell'albergo, chi nella hall, chi... Sì. Siccome era tutto con altoparlante, sentivano. Naturalmente gli interlocutori poi siamo stati io, Peter Caruso e Mario Mirabelli. Dunque, quando uno titola, come leggo sui siti, eccetera, Silvio parla a una sala vuota, è anche qua una mistificazione. Torna a coppe. No, ma io non sono io che lo dico, leggo qua. Io le sto dicendo perché la sala era vuota, va bene. Il problema tecnico quale non sta? Io le ho detto che la sala era piena, scusi. No, era vuota, sì, no, ma era vuota. Allora, le sto dicendo perché era vuota. D'accordo. E perché non gliel'avete detta a Berlusconi? Berlusconi lo sapeva perché lì lo sapeva già lo sapeva. Certo che lo sapeva perché i tecnici di Palazzo che erano a Palazzo siamo rassicurati. Sono riusciti, mica sto dicendo che la sala era piena. No, siamo rassicurati. Sto dicendo perché era vuota, perché se uno dice una sala vuota e non era un convegno, non era una manifestazione politica. No, è chiaro, era un americano, anzi calabro americano che portavano soldi. Peter Caruso. Borse di Mario Mirabelli, che ha il più grosso studio di avvocato di Washington. Sentiamo come ha concluso Berlusconi, però questo è eccezionale. Berlusconi ogni tanto... Com'era? Viva l'Italia? Com'era? Viva? Com'è? Viva gli Stati Uniti d'America, viva la Calabria e viva l'Italia. Però quando Berlusconi ha questi applausi così da un gruppo di persone così ristretto si sente la differenza. Vabbè, comunque. Ma lei che vuole? Ma lei mi vuole provocare? No, beh, un po'. Allora, ritorna a coppe è fantastico. È duro d'orecchio, evidentemente, non di intelligenza, perché intelligente. È duro d'orecchio. No, le sto dicendo che la sala era vuota. Lo so. Le sto spiegando perché. Ed erano sparpagliate. Eravamo 30 persone là dentro. E l'altro erano sparpagliate. 500 che c'erano prima. Va bene. Eravamo rimasti 30 persone. Come glielo sto spiegando? Ma lei non ci sente. Ma no, ci sente. L'abbraccio, Nucara, l'abbraccio. Grazie, grazie. Parenzo, se n'è andato. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao. Radio 24. La passione si sente.